Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, buona domenica, 14:36 primi e 29 secondi, una domenica particolare che ci ha buttato giù dal letto un po' a tutti, con grande terrore, con grande angoscia, devo dire dura, e l'abbiamo vissuta soltanto di rimbalzo. È difficile mettersi nei panni delle persone che hanno subito quest'altra violenza che ormai sta inondando il nostro paese già da un po' di tempo, ma non voglio aggiungere altre parole. Lo sta facendo il telegiornale, ringraziando il cielo, sembra che non ci siano persone, a parte qualche ferito, e speriamo che continui così. Però la ferita più grande è quella magari di perdere la propria casa rimanendo vivo, e quella è una grande ferita. Noi ci chiamo a Voice Anatomy, ma siamo a Radio 24 ed era giusto cominciare in questa maniera, anche se vicino a me c'è un grandissimo attore doppiatore, come ogni domenica siete abituati che all'inizio della trasmissione c'è sempre un graditissimo ospite, e allora cerchiamo di fare compagnia a chi sta distratto dal calcio, a chi in questo momento magari sta soffrendo per altri motivi, magari altre cose da fare, sicuramente starà lottando con la paura quotidiana, ma noi andiamo avanti. Ci siamo. E allora, vicino a me, signori, uno degli attori comici più divertenti del mondo. Perché di attori si tratta? Io impazzisco, e quanta gente è impazzita ascoltando un film, perché poi, sì, è vero, è una voce, ma riempie anche il corpo. E a parte gli assomiglia anche. Sì, no, ci sta tutto quanto. Allora io... È un complimento, lo prendo come complimento. Lo prendi come complimento, quando dirò chi è, magari la gente dirà, no, ma non mi ha fatto un complimento. Però no, la simpatia di quell'attore è straordinaria. Lui è Fabrizio Vidale. Fabrizio Vidale, ciao tesoro. Ciao a tutti. Anche lui grandissimo conduttore radiofonico, sta in un'altra radio, è sì. Virgin Radio. Virgin Radio, sì. Non lo diciamo tranquillamente, anzi è la radio. Grazie. Ma come fare pubblicità a un buon libro? La radio non è un prodotto, un brand che dici no, il mio è il meglio. No, le radio sono secondo me tutte belle. Sì, è vero. È l'elemento più bello e evocativo che c'è al mondo. Tu stai per radio e puoi dire quello che è vuoi. È un sogno. E è poi un attore che racconta una cosa, riempie di fantasia. Sta piovendo, è notte, sì. E sta piovendo, ricreiamo, è notte, anche se emozioni. Esatto, per cui è bellissimo. Poi tu vai la notte. Sì, sì, sì, alle 23 inizia Virgin Motel. Sei uno stalker notturno. Certo. Te ne approfitti. Assolutamente sì. Però tu doppi i pazzi, sempre, sì. Per cui non pazzi solo e neri. Pazzi e neri, e non solo, perché dopo ci abbiamo delle sorprese con Alessandro quando abbiamo capito, perché anche noi ci conosciamo, ma non profondamente. Quando ho scoperto tre o quattro magagne, subito abbiamo cercato e le metteremo in onda. Tu sei un figlio d'arte a tutto tondo. Sì, siamo una famiglia circense. Sì, davvero, perché poi dicono, hanno capito ormai i nostri dati ascoltatori, che non è lobby, non è mafia, no. Ma se uno c'ha un padre notaio, magari tenta di far notaio. Certo. Perché certo. Qui il doppiaggio, il talento ci vuole comunque. Non ci sono scorciatoie. Non ce lo regala nessuno. Per cui Franco Latini, tuo grandissimo papà, anche lui un caratterista pazzesco. Fantastico. Prima voce di Paperino. Lui doppiava tutti i personaggi della Hanna-Barbera, della Warner, Daffy Duck, Bugs Bunny, Speedy Gonzales, sempre... Gatto Silvestro. È vero che... Napo Orso Capo. La cosa bella di questi doppiaggi è che anche in America era uno che doppiava. E infatti proprio per quello scelsero lui, perché in America era Mel Blanc. Sì. E qui in Italia all'epoca Roy De Leonardis, che era colui che curava, che un gestiva po' tutta le edizioni, la parte, certo. Dell'animazione, volevano scegliere una persona e scelsero mio padre, perché aveva tutte le caratteristiche vocali che potevano andare a coprire i vari, certo, personaggi. Avevi un papà che faceva tutti i cartoni animati. Fantastico. Hai risparmiato sulla televisione. Sì. A pagare i rate di qualsiasi cosa. E poi ci ha lasciato in eredità alcuni personaggi, perché poi quando lui se n'è andato rifacemmo i vari provini, le varie cose. Io per un lungo periodo feci Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Mia sorella Ilaria tuttora fa Titti. Quindi, insomma, questo è proprio, si tratta di aver tramandato qualcosa ai propri figli. Speedy Gonzales. Com'è Speedy Gonzales? Hola, signor Gattone! Arriba, arriba, arriba, arriba! Fabrizio Vidale, Spiri Gonzales, ti prego, ti prego. No, di una cosa, leggi l'elenco del telefono di là. Cioè, è arrivato il sì, dottore, e la tenda di fuori. Non è facile, non è facile. Cioè, signori, Spiri Gonzales, voce volto, poi assomigliavi, cioè, volevamo dire questo, sì, che assomigliavi, sì, a Spiri, sì, Gonzales. Sì. No, Spiri Gonzales mi era sfuggito totalmente. Questo è, invece, tua sorella, che presto avremo ospite sicuramente. Lei è Titti. La voce di Titti tuttora. Titti tuttora? Titti tuttora, Titti, dotta piepite nola. Mentre mamma no, Piera non... Mamma in pensione, ha fatto la sua carriera e poi ha preferito ritirarsi. Vabbè, c'è stato... Voi, sì, dice, vabbè, proprio... andate avanti voi, che a me mi viene da ridere. No, so, la cosa bellissima. Quando finiamo alle 14.45 il primo blocco, vero? Io chiedo tranquillamente in diretta ad Alessandro, che saluto, ringrazio come sempre gli autori di questa bella trasmissione. Beh, diciamo, dopo un paio d'anni, Mauro Meconi e Alessia Navarro. Ringrazio anche Milano, se non mi soffendono, che la messa in onda, l'attenzione. Anzi, oggi saranno, ovviamente, come avete capito, una puntata particolare dove magari ci sarà anche la richiesta di entrare in diretta. Speriamo di no, ma non per non rovinare la trasmissione, sì, perché non è successo nient'altro, insomma. Ecco, sì. Allora speriamo che... Però tu sei Jack Black. Sì, Jack Black, diciamo che è l'attore al quale sono più affezionato. Beh, in assoluto. Jack Black, signori, se avete dei figli, anche per voi School of Rock tutta la vita. Io adesso vi faccio sentire un momento di School of Rock. Guardatelo, mangiatevelo, è il modo migliore per amare un professore, ma soprattutto per amare la musica, quella vera, la scusa per cominciare a conoscerla. Vai con un Jack Black, con la voce straordinaria di Fabrizio Vidale, e vai. Vieni qui tu, vediamo quello che sai fare, ok? Per provare. Ok? Ora prova tu. Ok! Va molto bene, tu resta qui. Allora, ok, Lorenz, dammi un sol. Oh, con la quinta sopra e quella di mezzo. No, quella di mezzo, lascia stare. Ora vai un'ottava sotto. Un po' di ritmo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E non cambiare ritmo, su. Ok, Katie, hai presente la nota che ti ho insegnato? Vai, ma sciogli il rock un po' di più. Pam, pam. Ok, dammi tipo... Su, ok. No, non va bene, questo è Giorgio della giungla. Prova qui, sul cimbalo, ma leggero. Ah, no, ma ti giuro, si andava tutto bello. Il film. Ma secondo me uno dovrebbe mettersi in macchina una sorta di audiolibro, un audiofilm. Certo. Che fa compagnia. È interessante l'audiofilm. No, bellissimo. Certo, i momenti di silenzio, cioè devi conoscere il film. Certo. Ma ti fa compagnia, questo avrei continuato ad ascoltarlo. Ma guardatelo, guardatelo assolutamente. Jack Black tu lo doppi da tantissimi anni, quasi sì, tutto, perché poi ti alterni ogni tanto con l'amico e collega Nanni Baldini. Sì. Io l'ho doppiato in una sedicina di film. Diciamo. Una sedicina di film. Tutti, cioè, sì, non è che ne ha fatti tantissimi. Sì. E poi, sì, è sempre caratterizzato tu, a parte, no, non sempre, perché dipende Iron dal Man, film. Per esempio Iron in Piccoli Man. Brividi era un Jack Black un po' diverso, cattivo, non so se lo avete visto. Io l'ho visto. Faceva il personaggio di R.L. Stein, lo scrittore, quindi chiaramente aveva un'attitudine diversa con il personaggio, però... Insomma, certo che bello, tu c'hai 46 anni. E poi fa Spiri Gonzales e non te può di niente. E ho cominciato a 3 anni. A fa Spiri Gonzales? Ho cominciato a 3 anni a doppiare. Tu sei in pensione? È il prossimo anno, sì. Sei un signore anziano. Eh sì, però ce li siamo guadagnati così tutti. Così metti diciamo. Tutto il governo, sai? Sì. Vai in pensione così diciamo presto. Diciamo così, sì. Non ci andrà, c'è ancora bisogno di te. E allora, signori, ovviamente restate con noi pochissimi secondi, perché Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, 14:46 primi, 8 secondi. Fabrizio Vidale al mio fianco. Ho scoperto, nonostante siamo amici da tanti anni, che è uno Spiri Gonzales meraviglioso, ma non soltanto quello. Ovviamente abbiamo raccontato anche di Jack Black e continueremo a parlarne, perché è un attore pazzesco e tu sei identico. Il doppio audio tuo, secondo me, è identico a quello di Oreste Lionello su Woody Allen o Gene Wilder. Sì, siamo molto simili vocalmente. No, ma proprio riusciamo uguali. Ad avere un range abbastanza... L'hai mai incontrato? L'ho incontrato una volta a Milano. Ma è molto velocemente, perché tu sai che i filtri che ci sono in queste situazioni si mettono sempre di mezzo, perché devono, ognuno ha il suo ruolo di tutela, diciamo così. Ho capito, quindi... ma lui è uno simpatico, sì, disponibile. Lui sicuramente, però in quell'occasione, perché era lì per un concerto del suo gruppo, i Tenacious D, era in una situazione abbastanza, insomma, veloce, e quindi ci siamo giusto stretti la mano velocemente. Poi la foto? Andare... No, niente. Come niente? Non te l'ha niente, fatto fare? No, lui era di passaggio, gli hanno detto non si poteva fermare, tutto via, corri, via, corri, ma io stavo fermo, erano loro no, che... No, io invece gli rompo le palle all'inverosimile, io. Anche l'altro giorno Viggo Mortensen stava a Roma, io sono andato lì, perché l'ho già conosciuto. Beh, ma loro, adesso è uscito un bellissimo docufilm, che si chiama Being George Clooney, non so se tu l'hai visto, che è stato realizzato da un americano, dove con la scusa di intervistare tutti i doppiatori del mondo di George Clooney, fra cui anche Francesco Pannofino, ha fatto un documentario sul doppiaggio, che adesso è uscito su una piattaforma di queste che sono nate ultimamente, e non so se si può dire, perché Netflix, è uscito su Netflix, e ha fatto un bellissimo documentario sul doppiaggio, dove addirittura un amministratore delegato di una grande distribuzione ha fatto un'intervista dicendo: grazie al doppiaggio noi in Europa ci salviamo, perché con molti film che vanno male da noi in America riusciamo ad avere un 60-70% di guadagno in più. È quello, hai capito? In Europa, esatto. Capito? E quindi... No, ma lo stesso Woody Allen è stato prima riconosciuto, dice grazie per essere onesto. Woody Allen è stato un grande quando se n'è andato Oreste, sì. È stato veramente un grande. Sono stato un attore migliore e mi ha veicolato in tutto. Come è stato un grande Piero Angela quando se n'è andato Claudio. Eh sì, Claudio Capone, parliamo della voce storica dei nostri documentari. Nella Chiesa degli Artisti, dove c'è stato il saluto che abbiamo dato a Claudio, lui è salito e ha detto: io devo ringraziare perché il 50% del successo di Quark è di Claudio. Sì, e poi non tutti hanno il coraggio comunque di ammettere questa nostra... Sì, aiuto, questo nostro supporto. Questo mondo è amato dalla gente, sì. È amato tantissimo, perché ripeto, è un mondo di traduttori, è una traduzione come un libro. Creiamo un'illusione meravigliosa che permette a tanti di guadagnare esatto. A tanti di seguire, di poter... E noi andate corso ormai, sì, è così. Ormai sì. Però tu hai aperto quel link straordinario di Speedy Gonzales e io l'ho colpito nel cuore. Guarda, abbiamo... insegno quanto sei borioso. Ah, quasi dove come il Bomba Cialtrone Renzi Medioc. Ma che dici? Ma perché? Ma perché sono borioso? Non ho parlato niente di me, non ho detto niente. Laborioso. Ci sono... Sì, esatto, forse hai ascoltato la nostra. Sono tanti messaggi belli che ti saluto, ti ringrazio, eccetera. Ma a me piace leggere quelli. Quelli meno... Sì, no, non lo so. Vabbè, perché... ma noi accettiamo tutti, perché il bello dell'esserci è ascoltare tutte le voci, insomma. Sì, solo poi... così si può comporre. Sì, ma adesso dalle 3 poi sarà tifoso di una squadra, lui ci abbandonerà, sicuramente. Non è un problema. Sì, no, ma non è un problema. Se fosse una critica bella, uno l'accetta. No, bella, brutta, le critiche possono essere anche molto dure. Speriamo che sia il Sassuolo, insomma. Sì, può darsi pure che... C'è una realtà logistica diversa come team. Però dopo Speedy Gonzales abbiamo scoperto una cosa. C'è la sigla? Mettiamo la sigla. E poi capirete perché. Eccolo. Piccolo come sei, per il mondo tu vai. Quanti ricordi? Chiamate la Croce Rossa. Che c'è? Fammi, se tu sei questo, quello che canta pure. Io ho fatto tutto. Tu eri Remy e cantavi. Cantavo, è stata un bellissima. Beh, era il 1978. È lì che ti hanno fatto cambiare casa, anche da una mano in campagna. Tu no, io ho cambiato casa quando feci Ultra. Feci Ultra di Ricky Tognazzi. Lì è dura. Lì dovetti cambiare casa sul serio. Perché ci fu, non so se vi ricordate, fu una bella diatriba molto forte. Sì, molto molto forte. Io dovetti cambiare casa perché mi aspettavano proprio sotto casa. Anche Claudio Amendola non ha passato Claudio Amendola un buon per periodo. Un annetto buono non è potuto andare allo stadio. Sì, qualcuno perché, l'hanno perché pizzicato. Il calcio è così, il calcio è amore, è amore, amicizia, è condivisione. Cuore. Però fammi sentire, Emi, non la togli, voglio sentire la voce, rimettila, voglio sentire lui quando ci avevi 8 anni. Ecco. Poi dici che uno da grande si droga. Vai. Questo sei tu. Vabbè. Hai capito che roba? Dove c'avevi la voce? Poi anche adesso la smuovi bene. L'appoggiavo sul diaframma. Ma quale diaframma? Che di là c'è già Leonora Bruni che sorride. Appunto, gliel'ho data. Gliel'ho data, non si può sentire gliel'ho a quest'ora. Sì, gliel'ho data, a un certo punto non ce l'ho fatta più. Fammi sentire. Con fantasia salti su. Poi perché pensi, perché poi i tuoi figli non ti hanno rispetto, secondo no, te? No, le mie figlie invece mi rispettano tantissimo e sono felicissime ogni volta, a parte che non ti chiamano loro... papà però. Sì, mi chiamano papà e Fabrizio. Come? Sono orgogliose e hanno cominciato anche loro, perché essendo una famiglia circense. Ma voi tutti c'è del DNA di abbiamo io sono tre defici, ce ne fosse uno che non c'è fa... uno che fa un programma su radio no, da qualche parte. Niente. Uno gioca a pallone, uno a pallacanestro e uno c'ha 2 anni e non dorme, per cui smette. Vedi, è un artista. Secondo me sì. Però Dolce Remy veramente ha mosso stai livelli della Guadagna e della Lepore. Sì. Non mette solo le ragazze quelle che cantano le sigle. C'è stato, mi ricordo nel 78 fu il primo cartone animato in 3D, tant'è vero che vendettero con TV Sorrisi e Canzoni gli occhialetti tridimensionali, quello rosso e blu, quelli che ti facevano gli occhi storti, sì, che si poteva vedere in televisione questo cartone in 3D perché era stato disegnato in questa maniera e quindi avevi un po' le prospettive degli alberi, degli animali. Ma pensa te, arrivano messaggi, qualcosa si può leggere, l'altro è sparito, ma mi dirà perché. No, segui la partita. Sono un insegnante di musica, a scuola faccio sempre vedere ai miei ragazzi il fin citato School of Rock, bellissima trasmissione, sono un'ascoltatrice assidua, grazie Isabella. Sì, no, ma è proprio un film da far vedere a scuola. sì, assolutamente. Perché sì, è vero che lui prende il posto dell'insegnante, eccetera, però non è un buon discorso per i professori, ma il film è meraviglioso. Il film è bellissimo. E infatti volevano fare il 2, ma poi a quanto so credo che abbiano abbandonato l'idea proprio per non andare a c'è dittaccare. Il musical anche in America, è uscito, sì? School of Rock, il musical, sì. Carissimo Fabrizio, innanzitutto complimenti. Altri complimenti, potresti un altro, Mario chiede, potresti ripetere il titolo del docu sul doppiaggio dove si può vedere su Netflix? Su Netflix il docufilm si intitola Being George Clooney. Essere come essere Being George... John Malkovich. Sì, John Malkovich, sì. E a proposito di Kaufman, era Kaufman, essere John Malkovich. John Malkovich. Che Kaufman è anche la regia di Rewind. Everybody. Winter Rain, Rewind. I don't know that. Be Kind of Rewind. Be Kind of Rewind. Difficilissimo. Divertente, non so, molto Jack Black. Ci siamo divertiti molto perché anche lì loro impersonavano tutto, perché il film è difficile. Sì, la storia era che andava a fuoco questa videoteca dello zio di uno dei due protagonisti e quindi loro per cercare di rimediare hanno rigirato la maggior parte dei film fatti da loro. L'idea è bellissima, esatto. Sì. Non c'è uno per affittare Rocky, Spasso Condesi, rigirato tutti i film storici. Sì. Abbiamo anche un momento di questo, c'è anche un messaggio, vedi che carini, come uno un attimo, se vengono gli amici. Ciao Pino, non ti curare di loro, dei detrattori, per ognuno di loro ci sono almeno 50 che ti adorano. Ti saluto e ti abbraccio, Dino. Grazie, allora speriamo un'altra detrazione e altri 50 che si aggiungono. No, ma ci sta tutto, ci sta sempre tutto. Sì. Sentiamoci un momento di Be Kind Rewind, Jack Black, Fabrizio Vidale. Guarda, le cassette sono tutte vuote. È la TV, Mike. Fammi vedere. Perché fa così? Succede anche quando lo fai tu. Oh. Che hai che non va? Perché fa così quando fai così? Sei magnetizzato! Tu hai cancellato tutti i miei film! Sei stato tu! Dobbiamo trovare altre cassette. Ho un'idea migliore. Vieni con me. Vai, when you're walking down the street, sì? And you see a little ghost. Sì. What you gonna do about Ghostbusters? Che roba è? È il tema di Ghostbusters, la canzone? No. Sono piuttosto sicuro. Resta dove sei, sto per arrivare! Mi ha smerdato! Non era male. Avete altro? Io ti ucciderò e ti avverto che conosco il robo karate! Non sono dei semplici remake. Sì, uccidilo, uccidilo. Oh no, ma che succede al nostro quartiere? La nostra versione è migliore. La nostra versione dura solo 20 minuti. Siamo delle star ormai, le persone mi riconoscono per strada. Su, dagli il bacio adesso. Aspetta un attimo. A tra pochissimo, Voice Anatomy e Fabrizio Vidale. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre ore 18. Più informazione, meno sorprese. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, ovviamente il nostro GR ci accompagnerà in tutte le fasi di questa giornata difficile, anche domani, eccetera, eccetera. Vicino a me c'è sempre Fabrizio Vidale, stiamo percorrendo un po', saltando da una cosa all'altra, perché scoprendo dei meandri nascosti della sua vita di attore e doppiatore, è bello camminare paralleli a tutto questo. Ovviamente Jack Black... totalmente, ma Speedy Gonzales si sono rimasti. Beh, Holly e Benji ha segnato la storia. Ha segnato in tutti ha i segnato sensi. Proprio. Eccoli. No, questa no, assolutamente. Però era bello quando lo doppiavamo, perché loro erano in originale erano giapponesi. Beh. E quindi è oh, era tutto un po'. E quindi era anche difficile seguirli. Io lasciare originali per far cambiare la gente a qualche detrattore che dice, ma voglio guardare Holly e Benji con i sottotitoli. Tutta culturale la voce. Eleonora ci ha raggiunti, anche se non è il suo momento, però noi abbiamo sempre bisogno di un tutore che ci accompagni. Questa voce è... Buonasera. Ciao Eleonora, dopo continueremo il nostro percorso insieme a te. La voce giapponese è assolutamente tipo voce estrema, o no? Assolutamente sì. Sì, sì. Loro hanno questa cosa. Messa veramente in luoghi. Sì. No, già lei, da imposti. Io gli ho chiesto a Leonora, dico, ma santo Dio, ma come fanno i rockstar a non perdere, a parte le droghe, vabbè, ma quelle le distruggono. Come fanno a non perdere la voce? È una tecnica anche quella. Sì. La fai pure tu quella voce brutta così, sì, com'è? Sì. E altre amenità del genere. Molto femminile, molto. Tua figlia vive tranquilla, è da lì che ha avuto quella botta di capelli bianchi la notte. Ma no. Mia figlia da piccola mi faceva morire da ridere, perché mentre le altre mamme dicevano ai figli adolescenti, per esempio, di non fare dei suoni orribili in casa, lei diceva a me: mamma, però quando vengono i miei amici, per favore, no. No. Oh, ti prego, no, mamma. L'orco, no. L'orco, no. E anche la voce con le corde parallele, quella acutissima, quella è difficile. I fischi con la il gola. Il mondo di Erika, quella. Erika, sì. Sembra una pista. Sì, non è che si sono interrotte le trasmissioni. Questo bisogna parallelizzare le corde vocali. Ma lì, in pratica, si fermano, non vibrano più. Ok. Senti, abbiamo un ospite, perché io proprio poco fa a Fabrizio ho detto: c'è un ragazzo che ci ha stupito la scorsa settimana imitando, sì, i grandi che si conoscono, eccetera, ma anche i doppiatori. Lì sono rimasto veramente sbalordito. Sì, una carrellata incredibile. Sì, pazzesco. Lui è al telefono. Dottor Di Girolamo? Pronto. Come stai? Come sta? Tutto bene, ciao. A Fabrizio stavo raccontando che riesci a raccontare i nostri colleghi in maniera straordinaria. Fai Nanni Baldini, che è la voce di Ciuchino e quant'altro, e un paio di Jack Black. E anche Jack Black, sì. Non lo conosco questo Girolamo, chi avete chiamato? Vai, parla come se fossi lui. Sei contento? Sì. Sei contento che ti abbiamo chiamato? Nanni. Non ho capito, scusa. Sì, sei contento, dico, che ti abbiamo richiamato, sì, Nanni. Sì. Sì, stavo facendo... Stavo facendo la canna alla griglia, ma tutto bene, sì. Voi che fate giù a Roma? Capito? Cioè, poi verrà ospite e capirete che è pazzescamente uguale. Cioè, ma mi hanno detto di un Gianni Musi. Gianni Musi riesce a farlo? Ci riesce? Siamo per telefono, ovviamente. Ma magari vediamo se il telefono è diverso che a microfono. Sono qui, nella lande desolate, alla fine del mondo. Non so se riusciti a sentirmi. Bravo. Sì, cioè, bravo. No, ci sta. E poi Troisi anche ci ha lasciato stupiti. Vabbè, Troisi. Vai. Signor Insegna, cioè, capisco che è brava, bella sta cosa, ma c'è anche Vidal, cioè, mi piace. Bravissimo. Questa trasmissione che... Però, cioè, è duro pomeriggio, c'è tre, perché sono i tre. C'è tre pomeriggio, cioè, la pizza a Napoli, si mangia la pizza e... Se sono mandolini sempre. Madonna, è uguale, perché poi l'ho conosciuto bene, per cui è revocarlo così, no, ce n'hai 2000. Però insomma, ci piaceva farti rifare una passeggiata attraverso questi microfoni. Sei un valore aggiunto, parliamo di voce ed è bello. Comunque, no, ma ci risentiamo e ci rivediamo sicuramente. Sì. Preparati. Vabbè, arriverò anche con la tua, sicuramente. Sì, vabbè, mia, ci vuole niente. Vabbè, no, beh, senti che bella voce che c'hai, bella timbrata, per cui puoi riuscire a fare quello. Ma io non ho grosse caratteristiche, a parte quello di essere bello, io non credo, sì, di averlo, no, Fabrizio. Infatti, non ne vedevo altre io. Esatto, non la bravura, ma la bellezza. La bellezza. È quella che conta nel doppiaggio. Infatti ho detto a mia moglie prima di venire, dico, amore, stai tranquilla, farò di tutto per non tradirti, ma non so se riuscirò prima della, ce la fine della trasmissione. Sono etero convinto, ma non ce la farò. Ti lascio con un saluto di Ficarra e Picone, così. Ah, vai, anche loro difficili, vai. No, tranquillamente, signor Insegno, guarda, aspetta che c'è Pino Insegno qua. Chi è? Pino Insegno, non fare così, allora. Pronto, pronto, buonasera, chi è? Sono Pino Insegno. No, salvo, allora, non cominciare, no, scusalo, ma veramente. Guarda, la domenica, poi lui è ancora addormentato, non capisce niente. Stai calmo, eh. No, perché poi... Ma io spero che tu stia a casa, perché altrimenti sì, te portano via. Sì, perché sono fuori. Va bene, amico mio, grazie tanto, davvero. Ci vediamo presto. Preparati una cosa bella e vieni quando vuoi. Ciao, okay, un abbraccio. Ciao. Ma che bravo. Bravissimo. No, bravissimo. Devo dire che l'imitatore ha sempre fatto brezza. Il suo fascino. E cominciò il grande Ligiero Schese, no, seguito poi da Sabbani, e poi è stata un'ondata. Neri, Marco Re. Neri, che bravissimo. Tutti, Giorgio Panariello. Ci fu un'ondata proprio. Noi facevamo nel 1990 con la Caraccia, era la premiata ditta, e facevamo Beautiful nel 90. Uh-huh. Inventammo la presa in giro. E c'era i TGX, che erano questi nuovi imitatori, che tuttora sono più grandi. C'era Neri, c'era e mi piace Giorgio. Ricordare, proprio perché hai nominato la premiata ditta, che io quando ero ragazzetto, vabbè, due anni fa, e mi intrufolavo, perché già ci conoscevamo, al Teatro Parioli a vedere le vostre prove di Gallina Vecchia fa buon Broadway. Broadway è già dal titolo, tipo l'ultimo, sì, che abbiamo fatto io e Ciufolo, che era Ti insegno un par di ciufoli, che insomma che è carino, si capisce che insomma un teatro a profondo che racconta un po' Chekhov, un po' tutto il teatro russo del un po' Orbov, sì, un po' che c'è niente, tutto il teatro russo del fine 800, insomma, fino l'altro giorno c'è mia moglie che sta facendo uno spettacolo, è Il giardino dei ciliegi di Chekhov. Io, mio amico, ha detto: vieni a vedermi. No, guarda, sto andando a vedere Il giardino dei semplici. Ah, sì. Ha fatto: perché ricantano? Sono rimessi insieme. Ha fatto: no, perché? Ah, no, Il giardino dei ciliegi. Vabbè, questo... Mi innamorai, Il giardino dei semplici. Oddio, mi innamorai dei tuoi occhi, del tuo riso. Chissà quando, chissà dove. Oddio, hai capito? Due. Il giardino dei semplici. Ma dai, i Beans. I don't know. Tutte quelle. Non me li ricordo neanche io. Cioè, i Beans era che cantavano i Beans. No, c'erano i Beans. C'erano questi gruppi. E Tuca non chiagne era il giardino dei semplici. Non era Il giardino dei semplici. Non lo so. Era la riedizione, ovviamente, che ha fatto tanto successo in quel periodo, ricantata dai College. No, perché questi gruppi si assomigliavano un po' tutti negli anni 70. No, assolutamente. A parte sì, gli Alunni del Sole, che sì, c'erano soprattutto. Soprattutto che non c'è più il grande Paolo Morelli, c'è Bruno e abbiamo avuto anche il piacere di sentirlo, perché dopo la morte di Paolo ha preferito ritirarsi. Sì, non pensarci. Beh, quando si sta insieme per tanti anni, fratelli, in quel immagino. Modo, quella vita straordinaria. Insomma, Bruni, che ne dici di questo mestiere del doppiatore? Meraviglioso. Veramente affascinante, devo dire. Insomma, visto adesso un po'. Grazie a voi anche, dal di dentro davvero c'è un bel mondo, perché poi non si tratta mai appunto di una semplice riproposizione, ma c'è in qualche modo un lavoro di interpretazione profondo, certo, una competenza attoriale strepitosa che va ben oltre la voce, ma c'è proprio un grosso lavoro appunto di senso, di significato. Veramente bellissimo. Devi ridare quell'anima in qualche modo, pur stando fuori e non avendo tutto quel tempo che hanno avuto loro. Esatto. Certo. Qui, ma anche i Rutti doppiati, li lasciate in originale. Dipende, se c'è la colonna internazionale, esatto, non possiamo intervenire. La colonna internazionale in un film sono la musica, gli effetti, certe volte il respiro, certe volte i bacetti rimangono originali. Altrimenti, che poi è più difficile entrare quando il respiro è originale, devi entrare con la battuta, eccetera. Quella è la colonna internazionale. Certe volte ci sono, certe volte non ci sono. A volte non ci sono, sì. Allora è imbarazzante, però bisogna farlo. Sì. Insomma, non è complicatissimo. Facciamo di tutto. Facciamo sì, di sì, tutto. E a volte c'è qualche rutto, ragazza che è più brava con noi di noi con i rutti, e dice, vabbè, lo faccio io il rutto, perché magari c'è uno che... No, no, è capitato. È capitato, è storia. È storia. Voglio sentire un altro tuo, Vidale, un altro tuo momento, un altro film, non Jack Black, abbiamo sentito Be Kind Rewind, guardatelo, è straordinario, School of Rock neanche ne parliamo, deve stare presente come The Dark Side of the Moon dentro ogni nastroteca, discoteca della vostra vita, ci deve essere School of Rock e The Dark Side of the Moon come disco. E invece sentiamo Chris Rock, un altro attore negretto simpatico, molto, comico pazzesco americano, in Bad Company. Prodotto da Jerry Bruckheimer e diretto da Joel Schumacher. Il mio gemello era della CIA. Vogliamo che lei prenda il suo posto. Quando si comincia? Adesso. Gli uomini migliori della CIA hanno solo 9 giorni per evitare una catastrofe. Buongiorno, signor Ace. Ehi, che diavolo vi ha preso? Adesso ogni... Codice rosso, entrate in azione. Secondo. Via, via, via. È vitale. Chris Rock. C'è una bomba sul sedile. Moriremo. Il premio Oscar a Anthony Hopkins. Ma qualcosa. Spara le gomme. Il futuro del mondo libero ora è nelle mani di quest'uomo. Nessuno sa fare di più. Voglio tornare a casa mia! Nessuno sa fare di meglio. E nessuno sa fare di peggio. No! No! Prendi la bomba, ti copro! Perché non prendi tu la bomba, io ti copro! Bad Company, protocollo Praga. Qualunque sacrificio per il proprio paese. Mi passi l'asciugamano. Yeah! Ehi, hey, Jude! Vai in pubblicità come Speedy Gonzales. Tieni il gattone nella pubblicità! A fra poco, Radio 24, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori, siamo stati molto rapidi, vicino a me sempre Fabrizio Vidale e Eleonora Bruni, la nostra tutorial, dopo parleremo con lei e continueremo il nostro percorso nella respirazione. Dobbiamo fare come faceva Jane Fonda a casa, no? Per fare ginnastica, che non va in palestra. Allora dobbiamo insegnare alle persone a fare questo, ma a cominciare a canticchiare, dare delle tecniche di base per poter emettere dei suoni salvaguardando la certo, gola, le corde vocali. Assolutamente fondamentale. Cosa certo, che dovremmo fare tutti. Tu fai qualcosa per mantenere la tua voce? Tutte le mattine, prima di cominciare a lavorare, faccio degli esercizi che mi insegnò tanti anni fa il dottor Scuri. Dottor Scuri? Scuri, siamo sì, un po' dal Venere. Eh sì, dottor Scuri, io sono tuo padre. Sì. E quindi chiaramente mi diede degli esercizietti da fare, perché che fai lo stretching delle corde vocali, lo fai il voice stretch? No, il voice stretch no, non faccio il voice test. Fa. Quello che stavo facendo è un vocal fry. Vocal fry, everybody. Sì. Stay allora, with us. Siete sempre in Radio 24, sono sempre Pinuccio. E vostro, tu lo fai il vocal fry? Il vocal fry, com'è il vocal in quei fry? Giorni? Oh yeah. Si può anche parlare. Questo è il vocal fry. Sì. E che cosa fa questo corde vocal? Corde corte corte, lasse, che sballonzolano, friggono quasi. Invece di fare quello che fa malissimo. Esatto, che fa malissimo. Di pulizia. Sì, è una sorta di pulizia. Va, come tutte le cose poi vanno fatte bene. Se fatto bene, quindi non deve essere stretto, strozzando, che quello certo, no, al contrario produce danni, ma largo produce una specie di massaggione. Io ho un ricordo incredibile. Ho un ricordo incredibile di quando ero bambino. Feci una compagnia teatrale, Gli Esuli di James Joyce. Oddio. Con la regia di Massimo De Francovic. Già stavi a sti livelli da bimbo. Sì. Madonna. E mi ricordo un attore che non so se tutti si ricorderanno, ma è stato un grande attore sia di teatro anche di sceneggiati televisivi dell'epoca, Mario Erpichini. Erpichini. Mario Erpichini. E Mario Erpichini, prima di entrare in scena, io mi ricordo, tu pensa a un bambino di 8 anni che sta lì dietro le quinte per partecipare allo spettacolo, e tutte le sere vedevo questo signore alto 1,90 m che si metteva dietro e faceva... Cioè, per un'ora, l'ultimo respiro. Sì, che tu non avendo, no, non sapendo perché c'ha l'asma, perché sta coraggio, male, sta male. E invece erano tutti e questo esercizi. Come si chiama questo con lo fiato? Ma questo non so bene perché non questo timbrando, è... ma soltanto facendo uscire aria. E che fa? Ma può darsi che lo facesse per, sì, per intanto controllare l'alito. Si, da, si, dava delle ali. Si dava delle si ali. Dava delle grandi ali. No, probabilmente per sentire proprio il transito dell'aria e quindi può magari provare il sostegno, si apre anche, no? Proprio. Sì. Anche se tanto passaggio di aria non rischia di seccare certo. il bordo delle certo. corde vocali, quindi ma come tutte le cose hanno un'utilità talvolta anche legata a togliere alcune ansie, insomma, ecco, ci sono sì, delle il cose certo. poi è la base dello yoga tutte magari sì, appunto mantra. Una persona che tende un po' a trattenere mm-hmm. prova a liberarsi in questa maniera, sente sì questo certo. transito proprio. No, invece il voice stretch è per spiegare alla gente, l'abbiamo nominato sì, prima. Stiamo anticipando la lezione. Sì, anticipiamo pure. Vabbè, tanto intendiamo noi. Quell'attività che porta le corde vocali a fare un lavoro elastico, insomma, si allungano e si accorciano. Solo lo le corde fare. Vocali, eh? Sì, vabbè, in realtà è un po' tutto che partecipa sempre. Però... Allora stai a posto. Lo facciamo, dopo facciamo l'esercizio, perché non voglio sì. anticipare niente. Io riprendo, c'ho la telecamera. Esatto, facciamo tutto. Tutto, bevi dai farmacie, va bene. Senti, tanti attori, ma un altro molto divertente è stato Scary Movie. Ah, come no, Marlo Wayans, l'altro negretto straordinario. Come no? Io ho fatto solo il primo, non dico mai io in questa trasmissione, però per Scary Movie io ho riso veramente troppo. Sì, io facevo l'assassino tanto. E lo stupido, che era la stessa parte. Sì, che poi è scritto anche dai fratelli Wayans. Sì, Wayans. Sì, tu l'hai fatti tutti a questo punto, i Scary Movie. Sì. Io dove c'era Marlon Wayans l'ho sempre fatto io. Poi credo dal terzo o dal quarto lui non ha più partecipato, quindi chiaramente non ho partecipato più neanche io. Non ce l'abbiamo, vero, Scary Movie? No, mi sa di no. Mannaggia la miseria. Lady Killers è anche un bellissimo film sì. fatto da Marlon Wayans molto con Tom Hanks. È vero. Che andarono a rubare nella non casa so, della non è dei chietta. Fratelli Cohen quello no non c'entra niente, forse non sì sai che forse sì forse sì, non so se dei fratelli o di uno dei due ma sicura dei fratelli Cohen feci Fargo, la serie che hanno fatto poco tempo vero, fa Martin lui. Freeman sì. Tu sei il protagonista di Fargo sì bellissima serie anche meravigliosa quella, bellissima, e Martin Freeman che ho doppiato anche nello Hobbit, è vero sì. Cioè, dici perché va in pensione. Basta, non ne possiamo più. L'unica persona che manca nell'Hobbit è Aragorn. Mi posso ammazzare. Tutti c'erano. È vero. Il mio era il principe. Piano piano sono tornati, un po' andavano, un po' venivano. Sì, Legolas, sono venuti tutti. Ma io, no, Aragorn, perché viene dopo. Arriva il principe Ramingo. Certo. Mi sono fatto spettacolo. Vabbè. Sì, però sono chi è diventato re, te o io? Vabbè, mettiamo un po' come ti pare. Bilbo io sono regina. Bilbo Baggins. Dai, Aragorn, di Arathorn, Bilbo Baggins. Filo di Arathorn, mica da Maramor. Tutto sembra una cantilena. Sì, sono i medicine, io ho detto sì. sempre. Mi prendi 15 gocce di Aragorn, due di Legolas e se sei costipato un po' di Gandalf. Che riesci? Al Gandalf ti apre. Sì. Sembra più una cosa da fare con l'Ario Sol. Il Gandalf. Gandalf, sì. Con la soluzione fisiologica. Sì. Ma adesso ti chiamano i Tolkieniani e ci chiudono la trasmissione. Che sono capaci di fare fantastici. Cose loro, però abbiamo un Matrix anche Marcus Chong. Chi era dentro Chong. Matrix Marcus Chong, Chong uno quello, dei due era diciamo l'operatore assegnato a lui che lo doveva aiutare quando lui andava in missione e poi lo aiutava anche a tornare perché come vi ricordate la cabina del telefono sì. succedeva sì, era un operatore dica risponde operatore 713 Matrix sì, beh, Bellucci ha fatto con quella voce ah, sì, eh? Vabbè, tanto non ci sente, sta in spesa in Francia, se sta a Città di Castello invece chiama, ha capito? Vabbè, speriamo che chiami, insomma magari ha sentito un po' un po' sì, sì no sentiamoci questo bel Matrix. Io e mio fratello Dozer siamo puri al 100%. Esseri umani vecchia maniera, generati e cresciuti liberi qui, nel mondo reale. Genuini figli di Zion. Zion? Se la guerra finisse domani, è a Zion che si festeggerebbe. È una città? L'ultima vera città. Il solo posto che abbiamo. E dov'è? In profondità, vicino al centro della Terra, dove c'è ancora calore. Se vivrai abbastanza, forse la vedrai. Chi l'avrebbe detto? Ti confesso che sono ansioso di vedere di cosa sei capace, se Morpheus ha ragione o no. Non dovremmo parlare di questo, lo so, ma se tu sei Ci sarà da divertirsi. E ci sarà da divertirsi, sì, caro sì. Fabrizio questo Vidale. È stato diretto questo film da uno degli ultimi grandi maestri, Pino Golizzi, che mi ha insegnato tanto ed è stato la persona che mi ha fatto cominciare questo lavoro. Te l'avrei chiesto proprio adesso, ecco, pensa, quale persona sei grato? A Pino Golizzi. Io accompagnai mia mamma alla vecchia Fonoroma, perché adesso la chiamiamo la vecchia Fonoroma, perché prima era Piazzale Flaminio, sì. E questo palazzo immenso era un po', sembrava di entrare appunto in questo regno. Bellissimo. E io accompagnai mia mamma, che anche lei faceva doppiaggio e lavorava per una società, e io la aspettavo in questo bar immenso che stava al terzo piano, e arrivò Pino, che stava doppiando Robin Hood e i compagni della foresta della Disney, 73 e mezzo, diciamo sì. 3 anni e mezzo, e cercavano la voce di questo coniglietto piccolissimo che si chiamava Codicillo. E non riuscivano a trovare un bambino che fosse credibile, perché era talmente piccolo che ci voleva una voce di un bambino vero. E quindi, senza dire niente a mia mamma che stava lavorando, Pino mi prese, dal vero, mia mamma si spaventò, perché quando andrò a cercarmi non mi ha trovato. E io stavo in braccio a Pino Golizzi a fare la prova del coniglietto e poi io ho fatto. Quindi primo doppiaggio è stato Robin Hood dei compagni della foresta, Codicillo. Ma dopo ha continuato, a parte Speedy Gonzales, sì, le simpatiche canaglie, sì, ma tu sei anche Pimpa. Pimpi di Winnie the Pooh. Ah no, è Pimpa. Ah no, Pimpa è un'altra cosa. Pimpa è un'altra cosa. Io l'altro personaggio. Sono stato Pimpi per tanti anni. Adesso non lo faccio più. Sì, non farlo più. Non lo faccio più. Una cosa che... No, sono rimasto molto legato, perché è stato un bellissimo periodo, molto molto lungo, affiatato, perché poi insomma Winnie the Pooh è uno dei più bei cartoni della Disney. E parlava tutta così perché era un piccolo maialino impaurito. Io ti amo. Va bene, resta con noi. Va bene, resta con noi. Ma anche piacere. Voi restate con noi. Ciao Pino, ti amo. Vabbè, Aragorn ai tempi dell'Hobbit da circa 20 anni. Se non si è visto, probabilmente è perché Viggo ha criticato PJ. Che fa? No. Ah, Peter Jackson. No, non si è visto, perché non c'entrava niente. Lady Killer era stato diretto da Ethan e Joel Cohen. Giusto. Ti ricordavi attento. Bene. Hai visto ancora? Madonna, stai sul pezzo proprio. Mamma mia, grande conduttore. Con quello mi scrive: sei borioso, sei pure stronzo. Va bene, a tra pochissimo. Voice Anatomy. Abbiamo scoperto tante altre magagne nella vita artistica di Fabrizio Vidale Altarini, con la testimonianza di Eleonora Bruni. Abbiamo scoperto che, grazie ad Alessandro, che tu sei uno dei quattro Teletubbies. Sì, sono Dipsy. Allora, su questo c'è un piccolo aneddoto, per se te, posso. Radio 24 finisce qui. Grazie a tutti e a presto, ragazzi. Tu hai rovinato. Tu mi hai distrutto, perché noi siamo tutti padri. Cappello, oh oh, tappi papà. No, capisci? Mio figlio, il primo, è cresciuto con i Teletubbies. Pure è ricoverato. Sta? Già sta a San Filippo Neri. Ah. No. Allora, senti questa che è bellissima. Dimmi, oddio. Voci nell'ombra fanno questo premio che c'è da un po' di anni. Ci invitano un po' di persone per premiarci. Io arrivo a Finale Ligure con la mia macchina, con mia sorella Ilaria, il marito e mia moglie Tiziana. Pioggia a dirotto come non si vedeva da anni. Liguria, è proprio una cosa incredibile. Non sai, paura ad uscire dalla macchina per quanto era forte. Io arrivo in questo piazzale dove lascio la macchina e bisogna pagare. Quindi di corsa scendo con la pioggia a dirotto, non avevo l'ombrello, vado a cercare la macchinetta per mettere i soldi. A un certo punto da lontano parte uno vestito di giallo, sai quelle cose gialle che si mettono per la pioggia, coprire, certo. Che mi rincorre. Io dico: oddio, questo sarà il parcheggiatore. No. Dice: se ne sta andando. Invece no, questo arriva sotto la pioggia. Scusa, ma lei è Fabrizio Vidale? È quello che doppia i Teletubbies. Ma così? Così. E io me lo sono guardato e dico: sì, tanta paura. Infatti, tanta paura. Sì. Uno rischia di fare la fine giollando. Cioè, che trovi un pazzo e dice: tu mai ammazzato per Jack Black. No. Per i Teletubbies. Per i Teletubbies, no. Che poi è giusto, educativo. Perché era, però reiteravano sempre lo stesso concetto. L'insegnamento era quello. Era fatto apposta per insegnare ai bambini molto piccoli di però non pensavate l'attenzione. Ai genitori che stanno davanti. Ma voi non pensate a noi. Perché noi lo facevamo tutti e quattro insieme in sala. Chi eravate i Teletubbies? Io. io Nanni Baldini, mia sorella Ilaria Latini e Antonella Rinaldi. Pure bei nomi, e soprattutto c'era mia sorella Mario Cordova. E Mario Cordova che faceva il narratore. Narratore, sì, che però voce di tanti attori enormi, Richard Gere, eccetera. Per cui questo è. Oddio, mi rifà la voce di Teletubbies? Oh, che bello, che bello, che bello. Ma poi perché c'avevano la borsa, erano uomini a borsetta? Allora no, ce n'era uno che poi è diventato l'icona gay nel mondo, esatto, che era quello che faceva Nanni, che adesso al momento non mi ricordo come si chiamasse. Non era Po', no. No, Po' lo faceva... Lala. No, era l'altro. L'altro. C'era Po' lo faceva mia sorella Ilaria, e faceva la bambina quella piccola, e poi c'era lui... Però tutti i quattro uomini erano i Telebabies, o no? Lala era... I Telebabies. Va bene, no, scusa. Winky Tinky. Sì, Tinky Winky. Tinky Winky. Ma ha segnato la vita. Tinky Winky che diventò l'icona gay nel mondo, perché era un uomo con la borsetta, maschio con la borsetta, ma è giusto. Anche questo, beh, serve anche questo, educare la diversità, che invece è normalità, per carità. Nanni Baldini. Nanni Baldini mi sembra che la persona giusta, a pennello, non vuole venire perché lui è timido. È riuscito a avere Oreste Baldini, e Nanni non vuole venire. Vabbè, ma prima o poi verrà. No, castiamo, la prende, santa miseria, quante cose ho scoperto. Dragon Ball, mi diceva Alessandro, quello non te lo ricordi, se neanche tu. Ma guarda, non... quali altre icone a sto Sonic, punto? Sonic X, l'isola, quella l'abbiamo fatta qualche cosa insieme con Francesca. È vero. Poi cartoni animati, tantissimi film d'animazione, adesso sinceramente. E poi c'è sempre la pagina, basta cliccare su Google, andate, mettete Fabrizio Vidale Jenna, appare la pagina di Fabrizio, che sanno perfettamente tutti. Senti, stai qui con noi, abbiamo, bello anche così, la trasmissione deve essere osmotica fra ospiti. Stavamo parlando prima del riscaldamento che bisogna fare, e visto che l'amico Fabrizio è comunque un cantante, ricordate la canzone straordinaria Remy, che gli ha fruttato 4 Grammy Award. 4 Grammy da Rubica o Messicas. Esatto, 4 Grammy. Quattro ha Grammy. Fatto di più, lascio, sono 5 Grammy. Lascia tutto nella basket. Esatto, 5 nella Grammy. Esatto. Per cui riscaldare la voce, poi parliamo di come si comincia a cantare, abbiamo già parlato della respirazione, dei primi vocalizzi, ma il riscaldamento a questo punto. Ma il riscaldamento è fondamentale, in realtà in qualche modo interessa chiunque usa la voce per motivi di lavoro, certo, e non solo lavoro artistico, no, professore, insomma, ecco, a scuola, spesso, il politico, esatto, sia per avere proprio un'efficacia comunicativa, sia per avere un'efficacia vocale. Gli esercizi di riscaldamento sono quelli che molto rapidamente dovrebbero portarci ad avere un corpo pronto all'emissione della voce, come i muscoli per un atleta, esattamente, dai. Perché poi in realtà, appunto, come dicevamo, cantiamo, parliamo ed emettiamo suono con l'intero corpo, quindi sì, c'è questo grosso lavoro da fare sulla libertà del respiro. Ci tengo sempre a sottolineare questo equilibrio e questa libertà, perché anche gli esercizi non devono mai essere eccessivi, forzuosi, troppo duri ed atletici, per così dire, ma devono condurci a un assetto naturale, facile, in cui ci troviamo con la voce pronta a fare quello che poi verrà dopo. Per cui il riscaldamento è anche breve, non è particolarmente lungo. Facciamo delle piccole cose, colleghiamo bene la sensazione di un respiro efficace, poggiamo il suono su questo respiro, cominciamo a sentire la presenza delle cavità di risonanza che amplificano, e poi muoviamo un po' la voce. Sembra facile, per esempio, questo una R, ma non è facile. Non è facile perché come si blocca, cioè, vibra. Che non sì, vibra. Perché chiede appunto che la lingua sia libera, che ci sia una stabilità anche appunto della fonte, della colonna d'aria. Ma una volta ottenuto una buona R, per esempio, riusciamo a non affaticarci troppo, ma già a muovere molto dal punto di vista delle altezze tonali. Quindi sia per il cantante sia per l'attore è molto utile. Sicuramente, questa è la R, e il voice stretch. Ma guarda, questo a tutte le auto. a tutte le auto. Stiamo arrivando, cavolo. E in questo modo abbiamo allungato le corde e poi le abbiamo riaccorciate, quindi abbiamo fatto lavorare tutti i muscoli. Come ci si arriva a fare una cosa del genere? Però ci si arriva molto molto più facilmente di quello che tutto sommato immaginiamo. Si tratta proprio di acquisire dei piccoli dei saper fare che sono corporei, si praticano, si trovano insieme. Ovviamente affidarsi a un buon insegnante aiuta moltissimo, ma anche tu sei piena, nel senso che sei piena di gente, per questo sì, devo dire, lavoro molto. La cosa importante è chiamare chi lavora, se normalmente apre un'accademia e chi non lavora. Dice, mio insegnante di recitazione, come si chiama? Mario Brdistnicki. Ah, ma dai, io l'ho doppiato. Sì, capito, è l'insegnante di danza, ma dove canta? No, non canta più. Non ha mai cantato una volta. Sì, capito, come in palestra insegna chi ha fatto un anno di pesi e poi ti insegna... Beh sì, qui c'è un discorsone. Sì, perché poi rovini la gente sia fisicamente in palestra che strutturalmente. Qui basta un grido fatto male che i noduli e che basta, i polipi, che gli edema, insomma. Basta un grido fatto male, basta una respirazione non adeguata, non corretta per andare in scena e fare una fatica pazzesca. Ma anche per la gente normale poi, che va allo stadio, vabbè, io non corro sto pericolo perché quando segna, quando segna la squadra mia. Tu non gridi? Esatto. O meglio ancora... Esatto, per cui non rischio mai di perdere la voce allo stadio. È un classico perché... quando segna e fa sempre per non perdere. Ti prepari prima e per poi strillare gol. Però in discoteca i ragazzi tutti che gridano quando c'è tanta gente, gridano tutti ingolando la voce. Tutti, spingendo come pazzi. Allo stadio! Sì. Bella Martino! Adesso... Ma io ho conosciuto una volta una persona che mi ha veramente fatto venire il terrore, che con un urlo allo stadio aveva avuto un'emorragia cordale pazzesca da cui poi non si era più ripreso. Quindi... Immagino. Chi è che dice? Sono Tinky Pinky. Fabrizio, sei poco delicato. Che vuol dire? Non lo so. Sono Tinky Pinky, cioè lui è Tinky Pinky. No, intanto è Tinky Winky. Esatto. Tinky Pinky sarà un amico, che ne so. L'amico di Tinky Winky. Sarà il suo. Non lo so, qualcuno ogni tanto dice delle cose in libertà. Altri dicono grazie Fabrizio della tua simpatia, eccetera, eccetera. Insomma, siamo arrivati a questo voice stretch terrificante, difficile, ma si deve fare e si può fare. Si deve fare, devo dire che serve non solo appunto ad avere una voce più pronta quando poi andiamo in scena, sia che facciamo i cantanti, sia che facciamo gli attori, sia che facciamo un lavoro vocale di qualunque tipo. Sì, poi si chiama il nodulo dell'insegnante, no? Quando gli insegnanti perdono la voce. Gli insegnanti di scuola hanno veramente spesso delle problematiche vocali non indifferenti. Le logopediste se ne occupano moltissimo. Sì, io lo urlo da questi microfoni da 2 anni, perché non dite che dico le stesse cose, ma io lo urlo di mettere italiano nelle scuole, ma non la grammatica soltanto, l'italiano. Sì. E poi l'impostazione vocale. Abbiamo uno strumento che sarà il nostro strumento di comunicazione più importante della nostra vita, che è la nostra voce, che non è la bella voce, ma è la voce giusta per salvaguardarla, per parlare, per comunicare, per vendere, per acquistare, per fare tutto. Per avere uno strumento longevo che duri nel tempo, una chitarra io la posso anche trattare male, me la ricompro nella peggiore delle ipotesi, la voce la voce fa parte del mio corpo. Sono due corde vocali, un centimetro, 12 millimetri l'una. Sì, sono piccolissime, possiamo pensarle quasi come l'unghia del mignolo, insomma, proprio un organo minuscolo. C'è un organo minuscolo? Io sì. Un organo minuscolo. Ho due corde vocali e... Va bene. Tutto minuscolo. Tutto minuscolo. Anche il nome però cognome. Metto il punto e poi diventa maiuscolo. Ah, mi hanno insegnato così, si va a capo. L'italiano. L'italiano. Quello è. Però tu canti da sempre, da tanto. Io sì. Io ho studiato canto, fra le altre cose, con uno dei maestri di fiamma, Izzo. Tanti anni fa feci canto lirico per qualche tempo. Anche canto lirico. Sei soprano, no? Sono soprana, sì. Sono soprano. Sopra. E aiuta, perché insomma facciamo questo lavoro e devo dire che sono uno dei pochi che... Perché non sono tanti. Quando arrivano film di animazioni o serie, perché anche in questo periodo le canzoni sono nelle serie, siamo in pochi a poter cantare e a recitare. E a recitare, quindi... È vero, siamo io, te, Barry White. Sì, Barry White. Basta, sì, Bruno Lauzi, ma non canta più, pure Barry White. E poi tu hai vinto un premio, leggevo che i nostri autori si arrabbiano e faccio domande. Io non lo sapevo, che hai fatto il Papa Buono. Sì, con Righi, come no? Hai fatto Giovanni XXIII. Giovanni XXIII. Lui ha fatto l'Ultra in Curva Sud. Sì, e poi il Papa. Sì, cioè, per pagare per dire scusate. Sì. E questo sì, Ricky fece un sogno. Un giorno mi fermò e mi disse: ma io ho fatto un sogno, ci dobbiamo vedere perché dobbiamo fare una cosa. Devo vedere se Papa stai Giovanni bene. 23esimo. Con Bob Hoskins, sì. Tu lo facevi lui giovane. Facevo lui da giovane. Beh, immagino, insomma. Sì, assolutamente. Hai vinto anche premio, il telegatto. Il telegatto, abbiamo vinto il telegatto, siamo stati, insomma, è stata una delle fiction più viste. Poi devo dire che Ricky, a parte che ci persona conosciamo da tanti anni, è persona fantastica, divertente. Vabbè, Simona. Una coppia, ecco, diciamo una delle poche coppie che io infatti, stimo. E poi ogni tanto glielo dico, siete gli unici che in 35 anni sono rimasti insieme. Insomma, 30 anni. Sì, infatti l'ho avuto insieme anche qua. Lei bacchetta è fortissima. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Ancora non è la pausa lunga, vero amico mio? Ma sono finiti i primi tempi. Ma è una gioia, non si è collegato, non mi ha detto niente ancora. Poi mi collegherò dopo con lui. A tra pochissimo, poi sanatomi, grazie. Sanatomi. Bentornati signori miei, rapidissimi dopo il traffico, siamo qui sempre con Fabrizio Vidale e Eleonora Bruni, questa volta la trasmissione si è missata a dovere per poi avere fra poco un attore straordinario, forte, simpatico, che è Dino a Brescia, che già ci ha raggiunti nei nostri studi, sta di là a gorgheggiare un caffè, credo con Mauro Meconi o stanno per... No, pensavo lui stesse. No, non deve strillare. Ormai c'è quel ferro. Però lo fa bene, sentito. Guarda, cioè, voglio fargli fare una lettura, ovviamente l'attore, il doppiatore che viene qui fa sempre una lettura che sia a contrasto con la propria professione, per far capire che la voce comunque è evocativa. Oppure io ho trovato un racconto molto divertente, una lettera di una bambina romana al papà che fa molto ridere. All'inizio sembra quasi irrispettosa, ma aspettate il finale. Caro papà, aspetta la musica, eccola. Ah, ecco. Eccola qui, vai. Caro papà, mi dispiace molto dovete dire che me ne sono andata col mio nuovo ragazzo. Ho trovato il vero amore e lui, dovresti vederlo, è così carino con tutti i suoi tatuaggi, il piercing e quella sua grossa moto così veloce. Ma non è tutto, papà. Finalmente so incinta. Abdullah dice che staremo benissimo nella sua roulotte in mezzo ai boschi. Lui vuole avere tanti bambini e questo è anche il sogno mio. E dato che ho scoperto che la marijuana non fa male, noi la coltiveremo anche per i nostri amici, per quando non avranno più la cocaina e l'ecstasy di cui hanno tanto bisogno. Nel frattempo, spero che la scienza trovi una cura per l'AIDS, così Abdul potrà stare un po' meglio. È così buono, so merita. Papà, non ti preoccupare. Ho già 15 anni, so badare a me stessa. Inoltre Abdul, forte dei suoi 44 anni, mi segue e mi consiglia il meglio nelle scelte, come quella di convertirmi all'Islam. Spero di venire a trovarti presto, così potrai conoscere i tuoi nipotini, la tua adorata bambina. PS, tutte cazzate papà, sto dai vicini, volevo solo dirti che nella vita ci sono cose peggiori della pagella che t'ho lasciato sul comodino. È bellissimo, è geniale, devo dire che ci sono degli autori online. Fantastico. Direi anche il nome, ma non lo so. Saperlo. Credo sia mia a sto punto. Beh, se uno non lo sa, la prendi tu la paternità. La connotazione. Mi fai continuiamo un po' il nostro tutorial. Dove possiamo andare? Dopo la respirazione, i vocalizzi, il canto estremo, cioè uno dovrebbe fare lezione con te. Allora, sì, fare lezione significa fare un percorso organico nel quale appunto i vari step vengono affrontati volta per volta, diventano naturali, si gestiscono con grande tranquillità e soprattutto... trovare quella possibilità poi di lasciare spazio invece anche a tutta quella parte più espressiva, più legata al significato, alla parte più artistica dell'arte, diciamo così, della voce. Tu riesci ad aiutare tutti? Li rendi intonati? Allora, qui la questione è complessa. Esatto, che differenza c'è fra uno diseducato a cantare uno stonato? Spesso la persona veramente stonata è... diciamo così non risolvibile, che non riusciamo a riportare verso una capacità tonale e neanche ad avere miglioramenti, o spesso ha un danno uditivo oppure ha altri problemi di tipo veramente fisico. Molto spesso la poca siamo intonazione... tutti di partenza siamo intonati. Di partenza siamo tutti capaci di avere quel controllo immediato, automatico, attraverso l'ascolto, per cui andiamo a regolare il livello tensorio delle corde ed emettiamo quella precisa nota. La cosa interessantissima è sapere che se io emetto una nota, le mie corde vocali si toccano in un secondo esattamente il numero di volte della frequenza di quella nota. È fantastico, no? Cioè, se io faccio un La 440 Hz, le mie corde in un secondo si toccano 440 volte. Me lo puoi fare questa botta di La? Adesso io non ho l'orecchio assoluto, ma insomma credo sia una cosa tipo la, più o meno una cosa e di questo si tipo, si stanno toccando 440 volte in un secondo. È un controllo immediato, uditivo. È chiaro che più lo educhiamo e più è facile ottenerlo. In genere l'intonazione migliora molto. Per cui se mi piace una ragazza e quella sta là, io la tocco 440 volte. 440 volte. Se ci riesci, sì. È come la vipera che morde il cavallo, 7 volte in secondo, no? Però se sta là. Sta solo. Poi si devono toccare. Deve stare solo e deve stare là. Deve stare solo. Deve stare solo e deve stare là. E deve dir sì. Deve dir sì. E poi do. Poi do. E do sarebbe proprio il coronamento della chiave del violino. Adesso siamo andati a Pezzulli. La trasmissione si sta andando verso quella dei Pezzulli e del straordinario trio Medusa. Potremmo continuare dicendo che lui si sente un re. E certo. E che fa? Che fa? Fa. No, va bene. Questi erano dei tutorial molto seri, sì, Dale. Sì. La gente doveva imparare. No, ma per carità di Dio, bisogna alternare. Sai che c'è un bioritmo assolutamente. Prendersi sul serio, amico mio, è troppo. L'autoironia è il segreto per salvarsi dalla vita. Guarda, assoluto. Tu insegni, cioè, hai un posto, lo ripeto sempre, perché qualcuno ti vuole cercare. Leonora Bruni, www. Anche se sei www.eleonorabruni.it è il mio sito. Lavoro tanto. Mio studio a Roma, poi insegno anche a Bologna. Dove e a c'è Milano. La tua collega straordinaria? Sì, la mia Erika Biavati, la fischiatrice con cui coatta vera. Sì, ma straordinaria. Fantastico. De Bologna ma coatta, ma vabbè, una contraddizione in termini. Sì, siamo oramai è un sodalizio fantastico. E poi sono a Milano e poi ho questo grande onore, insegno a Ravenna nell'alta formazione in vocologia artistica, che è l'unico corso universitario che esiste per la specializzazione appunto riguardo alla competenza vocale dell'Università di Bologna. È la facoltà di medicina e chirurgia. Ah, capito. Per cui Diego Cossu lì dovrebbe essere. Lì c'è Franco Fussi, che è appunto l'istituto. Però poi una puntata insieme a tutte e due. Sto aspettando che Franco mi dica la domenica che è libera. Per cui verrai pure tu. Cioè, molto volentieri. Cossu, Tassi sono tutti praticamente. Allora, dobbiamo andare in pubblicità e poi va bene, entra Dino a Brescia, saluto loro, lo dico in diretta perché tanto non abbiamo nulla da nascondere. Allora, a tra pochissimo con un nuovo straordinario ospite, continuiamo un attimo con loro perché ovviamente bisogna pure salutarla la gente in qualche modo. Ok, va bene, siamo qui. Allora, a fare una puntata sui doppiatori della pubblicità, ma guarda, stiamo pensando a fare delle altre cose, anche a fare delle puntate, cioè tutti quelli che hanno doppiato Il Signore degli Anelli, tutti quelli che hanno doppiato L'Hobbit, tutti quelli che hanno fatto Batman. Rocco, cioè... ti presenta mia moglie. Esatto, tutti hanno doppiato Rocco. Per radio. Vabbè, senti... voglio dire. Ma senti solo rumore. Vitale mi sta rovinando la trasmissione perché lui lavora in un'altra radio. Che no, sta facendo no. Di tutto. Non è vero, non è vero. Di tutto per renderla grande. A tra poco, Voice Anatomy. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Il segnale orario vi è offerto da Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Radio 24, verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca, da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, Radio 24, sono le 16:09:25 secondi, assolutamente in diretta. Sapete perfettamente che tipo di giornata stiamo affrontando, e qualcuno in maniera molto più grave di quella che stiamo affrontando noi. Ovviamente le notizie sono abbastanza confortanti, fra virgolette, visto che non è successo troppo, anche se perdere una casa credo che sia la cosa, una delle cose più gravi. Vicino a me sempre Fabrizio Vidale, dopo che abbiamo scoperto che è Speedy Gonzales. Arriba, arriba, iha, andale, andale! Ma soprattutto Remy. Vabbè, Remy non lo posso fare, no, lo puoi diventa fare. Un po' più difficile. Ma soprattutto sei una cosa, uno dei Teletubbies, questa è una cosa che non ti perdono. No, cappella, cappella. Tu hai dei figli, cappella. Non dire ancora il tuo nome, hai dei figli, sì, per cui sì, sei cresciuto sì, anche sì, tu in queste condizioni sì. Molto probabilmente. Però è un grandissimo Jack Black, sono tutti, tanti, meravigliosi, più di 700 film, più di, sì, sì, di serie. Una bella carriera. E sai anche Holly, di Holly e Benji, o sei Benji? No, Holly. Chi era Benji? Benji era Giorgio Borghetti. Giorgio Borghetti, anche sì, lui attore conosciuto. Attore, come no. Sì, sì, sì. Holly sì. E Benji erate voi due. Sì, sì, per tanti anni. L'ultima serie l'abbiamo fatta nel 2003 e ci chiamò Mediaset dicendo però dovete fare uno sforzo perché le prime 5 puntate sono di quando loro erano piccoli, quindi dovreste un po' fare... Infatti la prima 5 abbiamo doppiato così. Ehi, ciao, come stai? Bene, grazie. Perché in originale com'era? Sì. Che avevo... in originale in giapponese. Io veramente ripeto, io lascerei in originale per cui voglio vedere. Ci saluta e ti saluta Susanna. Un bacio grande a Fabrizio, amico grande, uno pure a Pino, ma ha dato anche a me. Grazie. Susanna, tu conosci Susanna? Credo sia Susanna Scalzi, una tua collega. La mia collega, non tua. Sì, lei è una presentatrice. È vero che sono anche un presentatore. Su Basio. No, oltre a essere bello, sono anche presentatore io. Ah, sei presentatore? Va bene. Dall'altra parte Eleonora Bruni che ci ha accompagnato anche oggi insieme a Fabrizio in questo tutorial sulla voce, ci ha raccontato un po' di cose. Salutami con una voce estrema. Vabbè, se rivedremo presto, ecco, capito? La società dei Magnaccioni. Esatto. Sarà un po', sì, allora, potete salutare, ma rimanete questo blocco insieme. No, chiamate un esorcista, vi prego, perché siamo veramente impossessati. Voice Anatomy, ma così approfittiamo dell'educazione e della tranquillità delle persone. Ringrazio Fabrizio, grazie tantissimo, a voi. Di cuore. Grazie Eleonora, però grazie. Rimanete qui perché presentiamo insieme il nuovo ospite che nasce. Facciamo come i documentari, mi metti una musica di quelle da presentazione giusta. Beh, ma dai, è giusto, non perché loro adesso si arrabbia Fabrizio, dice perché a me mai presentato. Cioè, ma hai messo la canzone di Remy a me? Ho capito, ma l'hai fatto tu. L'hai cantata tu, scusami. Ecco. Nato a Bari nel 1966, recita lungamente in teatro per poi lavorare per il cinema e la televisione. Tra i molti lavori per il grande schermo ricordiamo La Capagira del 2000 di Alessandro Piva, Il nostro matrimonio in crisi di Antonio Albanese, L'anima gemella di Sergio Rubini, Io non ho paura, diretto da Gabriele Salvatores, Se devo essere sincera del 2004 di Davide Ferrario, Manuale d'amore di Giovanni Veronesi e 2061 Un anno eccezionale, regia di Carlo Vanzina, Cado dalle nubi con Checco Zalone, Sei ma stata sulla luna di Paolo Genovese eccetera eccetera. Per la televisione, tra i molti lavori, ricordiamo un film TV, La Uno Bianca di Michele Soavi, Via Zanardi 33, Il Giudice Mastrangelo 1, 2, 3, eccetera, La Scelta di Laura per la regia di Alessandro Piva, Intelligence, Servizi e Segreti, Distretto di Polizia e Non Contento è andato a fare pure Squadra Antimafia. Nel 2009 partecipa al cortometraggio Guerra, che vede il debutto alla regia dell'attore Paolo Sassanelli, alla sezione Corto Cortissimo, una sezione che io conosco bene, che conosci perfettamente, della 66esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Vorrei gli applausi degni di un nostro amico. Sta buono, ce l'abbiamo registrato. Signori, Dino a Brescia. Ciao, ciao a tutti, grazie. Dopo una presentazione così, questa c'è... musica, stavo per piangere. No, dice, è venuto a mancare. Esatto, povero, il povero Dino a Brescia. Non è... Non è... Sono invece... partiti anche i ricordi, sì. La capagira, tanti anni Beh, fa. Bello. Film sì, che sì, è stato sì, bello sì. Lì è stato il tuo inizio, quello che mi ha lanciato, ti ha dato film. Sì, sì, è stato lo startup forte, esatto. Lo sliding doors è stato questo, insomma, esatto. La capagina, ha detto, vedi, c'è un attore che infatti è strano, no, infatti è strano perché prima di fare la capagina ho fatto tanto teatro in giro e poi dopo... ma il teatro lo sai, è come il delitto, non paga, per cui esatto. In tutti i sensi paga a livello artistico, meno a quello economico, no, e dopo anni e anni di peripezie, l'Elfo, scusami, il Teatro dell'Elfo di Milano, Teatri Uniti di Napoli, insomma, con Servillo ho fatto un paio di tournée con Tony Servillo, il Misantropo di Molière, insomma, i tournée, eccetera, e poi ti lancia un film recitato in dialetto barese strettissimo con i sottotitoli, cosa che non avresti che in confronto Gomorra è una cosa che si capiva, insomma. Assolutamente, anzi. Abbiamo un momento di La Capagira, allora grazie a Mauro Meconi, tuo collega, amico, certo. E autore, certo. Che si occupa anche di questo, soprattutto di questo dovrebbe occuparsi, io lo prendo sempre in giro, è un uomo che ha studiato ed è anche molto bravo, perché lui dice sempre che io ho fatto solo a me e scuole medie, non è vero, mi sono laureato. Vabbè, sentiamo un momento proprio della Capagira. Oh, Pasqua, che dici? Ma cosa? Ma cosa, ven? Oh, ma c'è la cornetta, oie? Qual è? Ma tu dai, proprio stronzo. Tu la che mandai un condenito, oie? Dove ci stai la roba, non ci stai, ie? Gli altri la chiacchia, posso spinare? Cosa stai a dire? Ci c'è un materiale, E la forma di condenito, ci non c'è forma, tenico. Come fai a cercare? Ma non grei. Paglio, ma tu sei proprio... Ma tu dogi, dammi da, dammi. Oh, e meno male che la da vostra pur te. E come la salzi, c'è tanto, vedi? E da che sei? So di come accorsi, Ma ci sta a dire? Tu la salzi, un capo a te, non scegli. Io non vengo a te. Qual è, tu stai esageri? Non hai detto che stai a rompere un po' palla. Un palla a me non la devi chiedere a rompere un po' palla. Oh! Oh! La si da chiosta, cazzo, roba, no? Voi dovete vedere, lui dice, vedi, questo è Voice Anatomy ed è giusto perché è anche un percorso nella nostra età. Esatto. Veramente è come è stato una persona antropologo delle voci, eccetera, è venuto qui e ci ha fatto ascoltare le voci di tutto il mondo. Questa è musica, sì, sì. La musica davvero. Ed è il film Elysium, io l'ho visto, per cui guardatelo perché uno sembra, dice, ma lo capirò, sembra Ollie e Benji, no? Sì, all'inizio in giapponese. Esatto, è difficile, sono lingue. No, la cosa incredibile è che nella proiezione a Milano c'era una coppia di signori che a un certo punto si alzano perché c'erano degli amici pugliesi che avevano assistito e lei si alza, ma lui dice, ma basta, non volevo venire a vedere un film straniero stasera. Cioè, lei pensava era roba un bulgara, ungherese. Ma che cos'è questo? Sembrava. Sono rumeni, sono andati via a tra pochissimo con il nostro amico Dino a Brescia. Non so se Fabrizio e Leonora rimangono o vanno via, però non lo so, ma vediamo, lo scopriremo solo vivendo, come dice Mogol. A tra poco. Anatomy. Bentornati signori, dall'altra parte del vetro mi danno i risultati di calcio, ma non mi interessa, non seguo il calcio, ma non è vero comunque, vabbè, ho detto per tirarmi sul morale. Da Giovanni, buona domenica a tutti, un saluto grandissimo al bravissimo Dino a Brescia, bello ascoltarvi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Dino, lì è stata l'illuminazione sulla strada di Damasco, cioè lì si sono accorti che c'era un bravissimo attore, venivi dal teatro come tutti gli attori dovrebbero fare. Esatto. E sì. Da lì è cominciata l'avventura cinematografica. Tu sì, invece sì. Quando hai capito che dovevi e volevi fare questo? Quando venivi da Bari, insomma, sì. Già venire dal sud non è una cosa di razzismo assolutamente, ma sai, sono dei posti magari dove dici ok, però Bari è una grande città, per carità, sì. Sono tantissimi esempi di grandi attori, Sergio Rubini, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non so di dove è esattamente Sergio. Sergio è di Ruvo, un paese a 20 chilometri. Ancora più difficile, sì, sì, ancora più difficile. Per cui tu da subito... No, è successo anche abbastanza tardi, avevo insomma 23-24 anni, stavo a Bari e suonavo la tromba in un... avevo tipo una piccola sezione fiati e tu suoni la tromba? Suonavo, sì, suonavo la tromba nella sezione fiati, sai, quelli tutti quanti che Tower, Tower of Power o gli Earth, Wind and Fire, la sezione esatto. Fiati più belle del mondo, esatto, divertentissimo. Niente, così un amico disse: ah, ci manca una persona in compagnia, stavano mettendo in scena aspettando Godot di Beckett per le scuole, dice: ci manca una persona, ci vorrebbe una persona come te in compagnia. È una specie di factor, montavo e smontavo le scenografie e in più dicevo sì e più lo recitavi o suonavi? No, dicevo in questo spettacolo, dicevo tipo due battute fuori dal pubblico, che era il messaggero di Godot che arrivava e diceva: Godot mi ha detto che viene domani, e me ne andavo. E la cantatrice calva si pettina sempre allo stesso modo. Arrivederci. Poi loro, c'erano Vladimiro e Stregoni, i protagonisti, dice: allora che ha detto Godot? Ha detto che oggi non può, ma viene domani. E me ne andavo, dicevo questa cosa qua. Poi la classica sostituzione, uno dei due protagonisti doveva tornare a casa, era un attore maltese per alcuni anni, non riescono in 3 giorni a trovare un sostituto. Tu sapevi la parte. Ho visto un mese di prove, 20 repliche, l'ho sostituito e sono rimasto praticamente sul palcoscenico sempre. E come succede, è nata una stella, esatto, succede così, esatto. Come nei film che si rispettano, c'è sempre il protagonista che si sente male. Esatto, tu lì hai faticato molto perché hai mandato dei virus lì a Malta alla famiglia. E sei riuscito a farlo fuori in una maniera poi brutta, ma non è stato, l'inizio non è stato carino da parte. No, lui è dovuto mancare per questioni sue di famiglia, poi è tornato e gli hanno detto: no, guarda, lo spettacolo aveva preso anche, era diventato anche un po' più leggero. Tu hai detto tendo a Cuba, come l'ha detto? No, perché non avendo tutta quella cosa, un po' quel retaggio intellettuale, era diventato uno spettacolo un po' più brillante, più istintivo, insomma, era un po' più certo, musical, che sono la tromba e Beckett aspettando Godot è diventato col palo, esatto, è tornato quello di Malta, dice: ma non era no, rimane questo, guarda, è bel così, guarda, lo fa lui, non ti preoccupare, arrivederci, torna a Malta. Lui non fa più l'attore, ovviamente, non lo so, non l'ho più visto, ha smesso, fa il marinaio, esatto, e tu hai fatto fuori una persona potenzialmente fortissima. Malta non c'è un attore famoso, capito? No, forse sarebbe stato lui. Se era lui, tu hai cambiato le... Quando faremo la domanda a questo signore, ma questo è stato sliding door. Quandina a Brescia, esatto, mi ha fatto se lo vedo, lo stacco con la... in pugliese stretto. Capito come si fa, Eleonora, Fabrizio? Così comincia una carriera. Uno dice: chissà quanto ha studiato, tanto da lì. E poi anche all'Elfo tu hai fatto fuori gli Gabbatantono. No, ti è andata bene così. No, casse quando entra lui, insomma. Come è andata, lì è poi? Successo che noi eravamo a Roma, al Ridotto del Colosseo. Prima c'è il teatro mitico, Colosseo, sì, di Roma, che c'era tipo 6 spazi, faceva spettacoli, sì, anche sulle rampe delle scale. Esatto, da 20 posti, 12, 31. All'ingresso, nell'atrio, fuori, sì, al parcheggio, sì, capito? 3 spettatori. Ah, qua facciamo un piccolo monologo. E tutto esaurito. Quanti sono? 4. Esatto. Cioè, 2 scalini. Le scale lì. Faceva spettacolo in uno di questi ridotti. Facevo uno spettacolo, una locandiera di Goldoni, dove io facevo 3 personaggi, tra cui Fabrizio e, sì, e il servitore del Cavaliere di Ripafra. Personaggi praticamente che non sono mai nessuno li ha fatti. Certo. Teatro, sono personaggi fantastici, perché avendone 3 c'era, beh, un po' quella trasformazione. E c'era l'Elfo che faceva uno spettacolo, una bottega del caffè di Fassbinder al Valle. Bene. Così, uno spettacolo meraviglioso, sì. E io vado a vedere lo spettacolo e De Capitani mi dice: no, entra, so chi sei a Brescia, noi adesso facciamo un Amleto, perché era venuto uno dei suoi a vedere lo spettacolo. Una volta si faceva questo e aveva detto: guarda che là c'è uno che fortissimo, ha fatto fuori già uno di Malta e qui pensa uno rumeno ha smesso di cantare e lui è strepitoso, noi dobbiamo far fuori 2 della nostra compagnia, lui è un killer, è il killer del teatro. E hai fatto questo Amleto con loro? Ci ha buttato dentro, faccio questo Amleto, ho fatto tipo 2-3 anni, 2-3 edizioni, poi da lì ho conosciuto Salvatore. Salvatore era già quasi già uscito, aveva già iniziato a fare cinema, cinema. Quindi, poi da lì ho conosciuto attori di Teatri Uniti, insomma, poi ho fatto un paio di tournée con Servillo, con questo Misantro, poi facevo questo personaggio. Beh, Servillo mi ha accompagnato un sacco di... parlavo anche con D'Amore, con Marco D'Amore, dico: Mauro, che lui

sua, però vabbè, già che c'è, trattiamolo bene. Esatto. Senti, la regia invece ti è mai interessato, Dino? La regia, sai cosa? È che la regia è... devi pensare a 2000 cose, vestiti, costumi, persone, troppa roba. A me... sei proprio un uomo del sud. A me piace... no, ma a me piace proprio l'attore, capito? Fare il personaggio, il meccanismo della regia, devo dire, non mi coinvolge molto. Più Susi, ad esempio. Susi anche adesso si sta molto più lanciando e cerca di fare regia anche cose che mi riguardano, cioè su di me. Ha detto ti faccio io la regia. A lei piace di più, c'è anche questa visione anche un po' più anche estetica. Io tutta sta roba non ce l'ho. A me mi fa vedere un attore vestito in un modo o in un altro, ma sì, va bene uguale. Sì, ma veramente è un film dell'Ottocento, capito? Ma si è vestito western, è sbagliato. Non te ne frega niente. Susi, sì, c'è una cosa e poi facciamo ascoltare. Ma voi vivete a Roma, siete a Roma? Sì, voglio venirvi a trovare stasera a casa, no, tranquilli. No. Ma magari era carino magari avere una prossima puntata. Come no? Tua moglie, assolutamente, a saperlo un attimo prima. Sì, l'avrei invitata con tutto il cuore. Se si sta ascoltando, che la Susi tranquilla e note le mani e avverti la mamma, che sembra normale, mi sta guardando con occhi tranquilli, insomma. Allora noi andiamo un attimo in pubblicità, se non sbaglio, vero? E rimanete con noi, a tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, ancora insieme all'amico Dino a Brescia, accompagnato, rimangono mai fino alla fine, manca molto Fabrizio Vidale e Leonora Bruni. E Dino mi sta raccontando, ed è una cosa interessante, perché uno sa la carriera di un attore, cioè cosa stai facendo, cosa farai, cosa non farai, questo interessa sì, ma poco. Dalla capagira, che è interessantissimo vedere come tutto è partito, mi stavi dicendo, raccontando dall'inizio, insomma, hai fatto un film in pugliese stretto, in barese stretto, e ecco cosa hai detto, ma questo ce lo vediamo a casa. Esatto, no? E poi era uno spaccato delinquenziale di Bari Vecchia, io ho detto in dialetto con i sottotitoli, ho detto ma questo alla fine ce lo vediamo fra di noi, poi ci siamo divertiti a imitare, a scimmiottare quei delinquenti che per anni anche un po' abbiamo temuto, incontravamo al bar, tutto così, insomma. Poi a un certo punto il film prende una strana strada e lo prendono al Festival di Berlino, cosa che io neanche andai al Festival di Berlino, in una di quelle sezioni, sai, così, eccetera eccetera, e stavo proprio quella, credo. E io stavo a casa così e dice: ah, guarda che c'è, sta andando al festival stasera, parlano dei film del festival. Guardo il telegiornale e vedo nello schermone gigante in primissimo piano la mia faccia, dove c'è il boss che mi dice: basta, famesta spedito, fatelo un po' ogni tanto, e mi butta la faccia su sta montagna di polvere bianca. E io vedo il film immagine e dico: no, ma che è successo? E ha fatto il botto a Berlino e i tedeschi ridevano come dei pazzi. I tedeschi. Non è facile fare dei tedeschi. E soprattutto c'è questa cosa, su questa battuta dove hanno molto riso, che c'è, che noi cerchiamo questo pacco che viene buttato dal treno, no? Allora c'è, infatti è proprio il dialogo che avete mandato prima, che dice: oh, e come fa, cioè la traduzione è: come faccio a cercarlo se non so che forma ha sta cosa che devo cercare? E Sassanelli mi dice: oh, è come una salsiccia, cioè è come una salsiccia. E io gli dico: oh, tu la salsiccia in gaplatin. Ah, la salsiccia in gaplatino, c'è stato il boato della sala. Allora dico: forse sarà per via dei Wrestel, no? Sì, esatto. Quindi la salsiccia, come l'hanno tradotto sotto, può darsi, esatto, il sottotitolo, esatto. hanno detto forse Wrestel. C'è un Wrestel in testa, funziona, esatto. Stanno chiamato poi a fare pubblicità in Germania, esatto. Dei Wrestel, no? È lì che è scoppiato il fenomeno tedesco, esatto. Di Tino a Brescia. E quindi insomma il Festival di Berlino ha risposto a questo film, che ripeto, pensavamo di guardarcelo a casa con quattro amici, invece il rimbalzo, come sempre accade, il rimbalzo dall'altra parte della nostra, mai profeta in patria, esatto. Il rimbalzo di qua, infatti, della capagina se ne è parlato più di quanto la gente poi l'abbia visto in realtà. Assolutamente sì. Però e dopo il festival, dopo che hai avuto quella risposta così bella al festival dai tedeschi, sì. Le critiche te le sei tenute, quelle tedesche? Sì, a Brescia, sì. Houston in testa, che funziona da morire. Pensando poi che in Germania non credo neanche, cioè se fosse Città del Messico, posso pure immaginare uno spaccato certo. così delinquenziale, ma esatto. non credo neanche, o anche, che ne so, se pensi alla Francia, alle Balie, ma non credo proprio che in Germania ci possa mai minimamente no. essere una realtà simile a quella che infatti ridevano l'hanno presa come una cosa di commedia, insomma. Esatto, sì, esatto. Guarda che simpatici italiani medi, devo dire, tocca evitarli. Esatto. Senti, invece adesso la condizione del cinema ti piace, come sta combinata, il polso lo stai tenendo di questa realtà? Bah, io questo, in questo momento particolare, insomma, non stanno, la gente non sta andando a vedere i film, insomma, i risultati e il box office del cinema italiano in questo momento è molto messo male. Non lo so, forse bisogna abbassare il costo del biglietto. No, io non lo so. Credo che c'è tanta offerta, nel senso che sai perfettamente che il cinema, se te lo perdi al cinema, lo recuperi esatto. in due secondi su Sky. Su Premium, certo. in DVD, quindi quella su fretta Netflix, di andare in sala, diciamo, me lo vedo, non me lo perdo. Una volta invece certo. se te lo perdevi in prima visione, certo. oddio, tentavi la seconda visione, mm-hmm. se non c'avevi i soldi, ci andiamo a vederlo in seconda visione, poi c'era la terza visione mille anni fa. Mm-hmm. Tu sei quanti anni hai tu? Io ne ho 50, li ho fatti qualche. Per cui c'hai delle date, sì. prima e seconda visione c'erano pure all'epoca. Sì, adesso c'è, credo, una proposta molto ampia da questo. No, perché il però prezzo, se no. vedi i film che comunque stanno incassando, comunque sono film che io credo che, questa è una mia opinione, magari vanno i Joe Inferno oppure quell'altro film Walt Disney, quindi comunque vanno i ragazzi, secondo sì, me quelli sempre, fondamentalmente loro. La scusa è quella che poi nei film della Disney c'è il genitore che lo accompagna, per cui si esatto. raddoppia il pubblico, perché esatto. il genitore raccoglie una cosa, sono anche molto belli, devo dire la verità, esatto. sì, ma sì. schiacciano troppo, ci vorrebbe anche qui, come in Francia, una legge che tuteli il cinema italiano. Cioè lì c'è il 60% delle pellicole devono essere di nazionalità francese. Certo, e invece le proiezioni dei film americani, una percentuale del biglietto deve essere reinvestito per produrre esatto. i film. Esatto, ci sono queste leggi, noi invece non le abbiamo, noi siamo cittadini americani senza il diritto al voto, insomma. Esatto. Almeno ci facessero votare. Adesso fra Trump e Liam, adesso è uscito quest'altro scandalo che non l'ho capito, se sono uscite delle foto nude di Hillary Clinton. Ma non lo so, non ci ho capito niente. So che adesso la distanza sono due punti. Vabbè, non c'entra niente con voi Sanatomi, però certo. Trump è veramente. Però sembra Biscardi, non c'è caso. È tutto rosso. Sì, è una sì, cosa sì. pazzesca. Invece, adesso, qual è lo scoglio, secondo te, di un giovane attore che si affaccia nel cinema, nello spettacolo? Adesso anche quello è difficile. Prima c'era molto meno, ma ci si riusciva. Adesso che ci sono tante possibilità, non lo so. Boh, tu senti un po'. Tu hai dei figli? Ma guarda, sì, c'ho un figlio di 7 anni. Ma è ancora presto allora. Se penso, sì, no. Ma lui ha cominciato a fare 3 anni. E l'attore è doppio, sta in pensione staltrando. Sto ladro di soldi. Pure, dopo 42 anni. Le pensioni baby, no? Esatto, pensioni baby. Mica tanto baby, 42 anni e penso che sia. 42 anni di contribuenti. Mamma mia, sì. sono giovanissimo. 73. Ma che non c'era il telefono azzurro, non lo poteva chiamare no. quando la madre ha fatto lavoro a 3 anni, perché sennò sfruttamento, cioè, a 3 anni in sala dalla mattina alla sera, povera creatura, non è alto per questi motivi, è rimasto sì. Ci sono messi picchilini, esatto. ecco. Per cui adesso guarda, è veramente difficile, è molto credo. difficile. Io ho fatto tanti anni, ma a me il teatro è stata una palestra veramente forte, molto importante. Adesso sai ragazzi, devi vivere a Roma, devi venire comunque a Roma, ci vuole un agente, io la vedo molto. È difficile. Ci sono tante possibilità, nel senso che adesso riesci a fare un film pure col telefonino, certo. corti, però ce ne sono tanti, forse sì. troppi, ci sono tante possibilità, e questo per questo poi Dio si disperde anche magari l'attenzione. Chi ti sei ispirato, Dino, nella tua vita artistica? C'hai avuto un punto di riferimento, ce l'hai adesso, non ce l'hai mai avuto? Leva me. Già me l'hai detto e mi fa piacere, ma leva me. Ma guarda, no, devo dirti no, anche perché mi sono mosso tra la commedia e i film drammatici, quindi non riesco a immaginare, non c'ho un punto di riferimento teatrale magari, no. Poi ci hai lavorato, magari uno potesse servirlo, ma magari Edoardo, che so, oppure il teatro classico, sì, Romolo, sì, Valli per Pirandello, certo, cioè, o il cinema di Gian Maria Volonté, che ne so, sicuramente bravo, sì, infatti, ecco, vedi, insomma, me ne ero dimenticato. Il trasformismo di Gian Maria Volonté, quello è davvero, quello è il punto d'arrivo di tutti. Però se poi dici quella cosa là, tutti dicono, tutti, Gian Maria Volonté. Certo. Però devo dire, un grande maestro è stato Tony Servillo, devo dire, l'ho molto osservato quando ero in scena con lui, lo guardavo, e poi è una persona è molto... A parte un professionista, però è quasi ecclesiastico lui, cioè c'è un rapporto col teatro quasi ecclesiastico, ma anche con il cinema, della grande bellezza. Esatto. Lui è veramente un punto di riferimento, lui per lo è stato, insomma, per me, perché anche lui è arrivato poi tardi, se vuoi, al successo. Esatto. No? L'hanno scoperto e ora non si ferma più, giustamente. Esatto. Però lui sempre il teatro, lui il suo teatro, ma il teatro non va mai abbandonato, teatro, esatto, tu continui col teatro, stai facendo qualcosa? No, devo dire no. E adesso è il momento di tornare. Sì. Forse adesso mi sta rivenendo di nuovo. Esatto. Di a Susi, anzi, chiamiamola al prossimo blocco. Susi. Esatto. Se scrive una cosa prima che per cinema, per una il teatro. Esatto. Sì, beh, sì. Adesso sarebbe carino venirti a vedere a teatro, perché comunque c'è una storia teatrale importante. Esatto. Il cinema ti ha dato una faccia e un corpo conosciuti. Esatto. È veramente simpatica. È bravo. Sei un amico di tutte le famiglie, perché attraversi pure il piccolo schermo con grande, certo, sincerità. È il momento di fare teatro. Sì, infatti sì, adesso... Non fare Godot, non fare Beckett, non lo fai, se no torna al Maltese e te fa fuori. Quello esatto. Non lo devi fare. Chiedo al mio amico Alessandro quanto abbiamo in questo blocco prima di arrivare all'ultimo. 2 minuti e mezzo. Allora, ci ascoltiamo invece un momento, visto che è con tua moglie, con Susi Laude. Sì, Laude. Laude, lei è del nord, bresciana, lei. Sì, bresciana. Dove siete incontrati? Una fiction, La scelta di Laura, facciamo marito e moglie. È vero questa, noi ci ascoltiamo un momento di marito e moglie, che poi diventeranno marito e moglie. Esatto. E faranno dei figli, vabbè, questa è un'altra storia. Sentiamolo un momento. In 2 anni non hai mai pronunciato il suo nome una volta, come se lui non fosse mai esistito. Non mi accompagni mai sulla sua tomba. Ogni volta che cerco di parlarne tu cambi argomento. Ti prego, io lo so che stai male come sto male io. Non ce la faccio più a sopportare questo silenzio. Ho bisogno di parlare di quello che è successo. Ho bisogno di parlare di lui. Non ce la faccio da sola. È per quello che ho scritto quelle stupide lettere. Sono 1000, quella che non gli ho dato. Beh, perdonami, Dino. Ma se... Perdonami, io ho sbagliato. Perché abbiamo chiamato a Brescia a fare l'ospite in questa puntata quando c'era quella signora attrice dall'altra parte? Perdonami, Mauro, lo dico al mio autore Mauro Meconi, attore, collega di Dino. L'hai fatto per amicizie vostre. Che avete fatto voi? Il romanzo criminale non... Hai la... Ah, lui ha lavorato solo con lei, dice Mauro Meconi. In che cosa avete lavorato insieme, Mauro? I nuovi mostri, rifacimento a quello nuovo. Esatto, i nuovi mostri, sì. Beh, ma però tu sapevi quanto era brava sta signora, sta signorina, sta... no, signora, perché ormai è sposato Dino. Ha una storia con quello maltese, vabbè, ma questa è un'altra cosa che poi appureremo più avanti. Straordinario. Infatti avevamo, insomma, in questa fiction ti sei innamorato qui in questa un scena rapporto, no, ma poi un rapporto complicatissimo. In questa fiction ci siamo separati, perdiamo un figlio, è una roba di una tragedia. Quindi durante i quattro mesi di riprese non abbiamo avuto neanche proprio minimamente, poi è finita la serie, ma vediamoci. Sì, perché avete però fatto tutto, siete ammazzati, siete divorziati, siete ammazzati, per cui adesso ci possiamo solo amare. Esatto. È stato uno psicodramma sta serie. Esatto. Però che bella, Galeotta. Esatto. Fu la serie e chi la scrisse. Esatto. Bellissima. Però voglio chiamarla, noi adesso stiamo andando in pubblicità, tu adesso dai il numero di tua moglie, intanto controlliamo dov'è, se esattamente tutto, vabbè, ma sono cose nostre. E voglio parlarci un attimo, se non ti dispiace, chiudere quest'ultimo blocco con, sì, con sì, lei, sì. Va bene? Assolutamente. Allora, a tra pochissimo in Voice Anatomy, l'ultimo momento insieme, e poi il collegamento con i nostri amici dello sport, detti anche ma è una gioia. A tra pochissimo. Voice Anatomy. Eccoci, stiamo sempre qui con Dino a Brescia. Abbiamo sentito e ho capito qual è quella brava della famiglia. E a quel punto, sì, avrà fatto tutti questi film di gran successo, 70 milioni di euro. Però a questo punto voglio chiedere direttamente a lei, abbiamo Susi Laude al telefono. Susi. Ciao a tutti. tutti. Susi. Ciao Susi, ciao. Dimmi la verità, Susi, lui ha lavorato in quella fiction perché l'hai raccomandato tu. Ovviamente, poi devi sapere che tutte le attrici che lavorano con lui, sì, anche nella storia, muoiono tutte. Perché lei è anche sceneggiatrice, no? Sì, no, sì, nelle... ho chiesto come contratto che tutte le attrici che fanno la sua fidanzata, sua moglie, l'amante, devono morire. Sì, una è morta impiccata, l'altra l'hanno sparata. Ma sì, è vero. Sì, sì. Per questo il film che fa, fa l'omosessuale e basta. Esatto, esatto. Tu accetti solo queste storie. Certo, a meno che sono io la sua fidanzata, la sua compagna, queste sono anche nella Susi, queste sono interviste rivelatrici, basta dire come stai, esatto, la tua vita familiare, cosa farai, i tuoi impegni, i progetti antichi, dove è partita la tua carriera, sti cavoli, come si dice, esatto. Vediamo le verità, entriamo inside di Nuova Brescia, sì, e abbiamo scoperto già delle cose antiche del teatro, che grazie, da donna, sì, no, quello lo fa in maniera privata, ma non lo so adesso, però abbiamo distrutto una carriera in maniera perché... pubblica. Ah, lo fa in maniera pubblica, avete un figlio, lui lo sa, insomma, ecco. Sì, lui lo sa, l'ha visto perché era la mia prima regia, e sì, esatto, Nico, e sa tutte le battute a memoria di papà che è vestito da donna, che fa Maria. Che punti di riferimento che abbiamo, devo dire. Io pure sono una famiglia aperta, ecco. Non si dice, io quando non è presentatore, famiglia open, no, basta. Ma io e Ciufoli eravamo vestiti da Batman, da Batman e Robin gay, ne facciamo finché c'è vita, c'è speranza, con i nostri figli che eravamo portati sul set e facevano casino, e facevamo, oh basta, insomma, ma per favore, Ciuffoli vestito da Robby che è Garzarete e io da Batman, vabbè, lasciamo, come fai a dare un esempio? No, Susi, senti, stavo dicendo che il signor marito e anche tu dovreste tornare a teatro adesso. Sì. E adesso è il momento di fare teatro. E certo, avete fatto un percorso straordinario, lui con il teatro, adesso non solo la tua vita artistica. Dovremmo fare Macbeth. Perché no? Perché no? Io con le mani piene di sangue. Sì, però muori pure te al secondo atto, però ricordatelo. Vabbè, però sarebbe una grande vendetta, almeno su quello. Sì, ma muori e va avanti lui, poi morirà pure lui alla fine quando il bosco va verso di lui, però te lui. No, hai ragione, è arrivato il momento che ci rimettiamo a fare un po' di teatro, vero? Sì, ma magari è riscritto, riproposto, anche originale. Cioè, questo è un consiglio proprio a viva voce. Infatti, ti abbiamo chiamato per questo. Esatto. Bene, sì, parliamone. Adesso no, in realtà io ci avrei un'idea, però vado sempre a parare lì, capito? Io vorrei fare le serve di Genè in teatro, dove Dino fa la serva insieme a Paolo Sassanelli. Niente. Ormai niente, ho capito, cioè, però poraggio. No, perché lei appena si annoia dice, dai, vestiti da donna che ci faccio due risate. Sei il suo divertimento in Lucia la sera. Ma facciamo le serve, tu fai una delle serve. No, lei vuole che faccia la signora, manco la serva. La signora delle serve di Genè, che nasce, che il testo è, certo, hanno fatto delle donne. Le donne, ovviamente, però è il momento di cambiare. No, cerchiamo di fare una cosa che veicoli di più l'amico Dino e anche te, magari fate una cosa dove tu fai la donna incredibile e lui l'uomo incredibile. Esatto. Queste cose folli, insomma, esatto, bisogna farle. Senti Susi, no, volevo salutarti, ringraziarti e farti i complimenti. E fare auguri solo a te e alla famiglia. Senti, perché... ma dimmi! Che rimane in trasmissione fino a domani, giusto? No, non c'è da fare. C'è da fare. Va bene, Dino. Voi siete a Roma, Susi? Sì. Sì. Per cui ci mette poco arrivare, che zona? Solo la zona, dimmi. Noi siamo a Monteverde Vecchio, siamo vicini di casa. Siamo pure vicini di casa, allora lo porto io a casa, ci metto un po', buco, te faccio uno squillo perché Mauro Meconi c'ha il tuo numero, non c'aveva quello nuovo, tranquillo Dino, per cui gliel'ha dato tu quello nuovo. Vabbè, ma Mauro mi ha rubato una sedia a rotelle su un film, voglio dire, ormai la nostra storia d'amore è finita. Con Mauro c'è... Ma, insomma, per te Susi Laude finisce qui, caro Dino. Anche la tua vita artistica è distrutta. Comunque siete meravigliosi, la prossima volta mi faccio portare anch'io. Vieni, no, infatti. Assolutamente, vieni tu e parliamo di te. E ogni tanto chiediamo a questo signore con i capelli bianchi di fare la donna. E basta. Esatto. Susi, un bacio a te, al tuo piccolino, e ci vediamo e sentiamo presto. Insomma, visto che non abitiamo neanche così lontano. Va bene? Grande. Ciao ragazzi. Buona vita. Ciao Susi. Ciao. Però si vede, sente la complicità. L'ironia è fondamentale, sì, ragazzi. Voi, insomma, quanto che stai insieme? Minimo su 8 anni, perché Nico ce l'ha 7. È incinta dopo un mese e mezzo. Niente, è bloccata subito. Fatto bene. Allora io riavrò, nel senso buono del termine, come Dino, no? Perché ci siamo soffermati per un'ora sull'inizio, su questa storia, e che credo che sia anche la cosa più bella, più divertente e certo, anche carina, conoscere una persona dall'altra parte, no? In the dark side, anche se di dark non c'è niente, ma capire quello. Rimanete con me perché gli ultimi minuti sono con i nostri amici dello sport, con Capuano, Pardo, eccetera, questi grandi geni dello sport che mi danno sempre delle notizie orride. Io non voglio sapere mai niente dei risultati della mia squadra, per questo li chiamo mai una gioia, dico sempre, anche se qualcuno dice ma senti sempre le stesse cose, vabbè, ma è un tormentone, non posso dire. Sono tanti messaggi di, vabbè, è inutile leggere tutti, ma sono tempi di complimenti. Solo uno ci ha attaccato al, ma ha attaccato al muro all'inizio. Vabbè, ma chissà, magari ha tutto studiato in un'altra, sì, lì, un'altra radio come la tua, come quella di Pezzulli. Oh, siete così. Se io faccio la pubblicità all'altra radio, voi attaccate. Vabbè, certo, lascia stare. Dino tu di che squadra sei? Io devo dire il calcio lo seguo poco. Benissimo, anche tu, Vitale. Sì, poco, pochissimo. Della Roma, ma insomma poco. Non ma non la poco, sì, va bene. Allora poco. Niente, tu, niente. Proprio... tranquillo, sono l'unico che segue il calcio. Capuano, da Milano. Eccomi qua, dimmi. No, che dimmi? Io non posso farti salutare da Dino Brea. L'hai visto cado dalle nubi, Dino? Io, no. Sì, Dino, Capuano. No, non l'ho visto. Io guardo solo le partite. Madonna, che palle. Ma sei sposato, Capuano? Sì, ma guardiamo solo le partite. Pure tua moglie? No, scherzo. No, non scherzi. Dai, parliamo di cose serie. Dai, di cose serie. Non sei sposato, ho detto che fai stasera. Vabbè, vai, vai, Capuano. Allora, ti dico che l'Empoli ha fermato la Roma. È appena terminata la gara 0-0. Empoli-Roma, quindi c'è ufficialmente la Juventus in fuga, perché la Roma oggi aveva l'opportunità di accorciare, invece resta a 4 punti dalla Juventus. Si sta ancora giocando sugli altri campi. Siamo in tempo di recupero, 1-0 del Milan sul Pescara. Partita però molto sofferta, sì, per i rossoneri. Gol di Bonaventura su calcio di punizione, poi un paio di pali per il Milan, un paio di gol annullati giustamente per il Pescara. Donnarumma ha fatto almeno una parata straordinaria e ha appena raddoppiato il Crotone sul Chievo, gol di Falcinelli, il primo era stato segnato da Trotta. A questo punto direi che siamo a un passo dalla prima vittoria nella storia in Serie A per il Crotone. E poi c'è Lazio-Sassuolo 2-1, in questo momento si sta giocando, siamo a 30 secondi dalla fine del tempo di recupero. Ecco, rimani con me, non te ne andare, rimani 30 secondi con me. Sì, ti dirò, partita di cui si parlerà molto, perché il gol dell'1-0 è clamorosamente in fuorigioco di Lulic. Vabbè, ma queste sono cose particolari, non ci interessano, è incredibile, tutti questi favori arbitrali non ci abbiamo mai avuti, ma molto fuorigioco, vero? Sì, molto, molto. Molto. Sono 5 arbitri, per quale motivo non riescono a vedere una cosa? Mai, è interpretazione, sono dall'anno 5 prossimo ci sarà anche la Moviola in campo, quindi tutti lì. Si presume. Allora, la Lazio è finita e ha vinto 2-1. I gol Lulic, Immobile e De Frel, te li ho detti. Si sta ancora giocando con il Pescara, che continua ad andare vicinissimo al gol del pareggio. Ancora Donnarumma ha fatto un numero importante in questo momento su Caprari. Milan che tornerebbe alla vittoria dopo essersi fermato contro il Genoa in settimana e resterebbe comunque ampiamente in zona Champions. A San Siro, te lo dico, ci sono 7 minuti di recupero, perché ci sono stati alcuni problemi. L'Inter gioca stasera alle 20:45 a Marassi contro la Sampdoria. L'altra partita di oggi, Atalanta-Genoa 3-0, quella che si è giocata alle 12:30, ha vinto l'Atalanta, doppietta di Kurtic, gol di Gomez. Atalanta che in questo momento è in Europa League. Ha fatto 16 punti nelle ultime 6 partite, è la squadra insieme alla Juventus che è andata meglio. Vedi, è bello. No, quest'anno il campionato offre delle possibilità, dai. Va bene? Mi devi dire altro? Sì, no, non ti devo dire altro. Motociclismo. Rossi. Ma guarda, motociclismo stamattina è stata divertente. A un certo punto abbiamo sperato addirittura nel podio tutto italiano. Poi Iannone è caduto. Primo Dovizioso, secondo Valentino Rossi, terzo Jorge Lorenzo. È caduto anche Marquez. Marquez se ne è fregato quando ha vinto. Sì, cioè, ha fatto due cadute, una in Australia e una oggi. Quanti punti sta oggi? Motorossi, anche se ha perso, ma è a 37 punti. Secondo, la bella notizia della mattinata è che si è chiusa anche la corsa per il secondo posto nel mondiale, perché Jorge Lorenzo è a 28 punti da Valentino Rossi, per e quindi secondo non si potrà ribaltare la situazione nell'ultimo Gran Premio. Poi alle 20 in Messico il Gran Premio di Formula 1, ma lì belle notizie, sarà dura averle. Esatto, per cui non ti chiamo dopo le 10:30. No. Dottor Capuano, ti auguro un'ottima trasmissione come sempre. Grazie, un abbraccio mille a te, grazie per la tua tanto c'è disponibilità. Il Pescara che sta assediando l'area di Donnarumma. Ma Donnarumma è alto 2,40 metri, cavolo. C'è tutti gli hobbit uno sopra l'altro. Quelle mani lì che quando arrivano sotto l'incrocio dei pali sono incredibili. Ha fatto una parata, io me lo andatevela a vedere, è molto simile a quella fatta contro la Juve contro Khedira. Mamma mia. Va bene, Capuano, grazie. Alla prossima. A te e fra poco buon lavoro. Nel frattempo ringrazio, oltre l'amico Capuano, Eleonora Bruni per grazie aver mille. Partecipare ancora una volta alla nostra trasmissione, Fabrizio Vidale. Grazie, e Pino. Tutti i tuoi personaggi, fatti esorcizzare quanto prima, perché tutti Dino Brescia, grazie, la tua disponibilità, grazie. Grande ironia, grande bravura, grazie. Una moglie straordinaria e un bambino che crescerà sano nonostante tutti vesta da donna. Grazie Alessandro. Ciao, grazie. Grazie a Mauro Megoni, al Samaro, grazie a Milano. Domenica prossima ancora una nuova puntata di Voice Anatomy. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.